E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara. Caro Telese, come stai? Eccoci! Lo sai qual è l'audio del giorno? Qual è? Ti faccio sentire Ennio Doris. Oh, lui! Ennio Doris, presidente della Banca Mediolanum, socio di Berlusconi, il quale a Cortina dice che il Cavaliere è un dono di Dio. Senti. Io potrei rispondere con la definizione che ha dato di Berlusconi Don Verzè, 15 giorni fa, sopra il Duomo di Milano. E Don Verzè gli ha detto: tu sei un dono di Dio per le persone che hanno la fortuna di avere rapporti con te, per il prossimo. Tu sei un dono di Dio. Io sono assolutamente convinto di questo. Ma non è bellissimo, Luca? Sì, solo un dono di Dio. Sono sempre parchi di aggettivi. Insomma, dono di sobri. Dio. Però continua Doris su questo fronte, il dono di Dio, e ne trova un altro. Per lui la politica è una missione, senti. Ma lui vive il lavoro come una missione. Difatti, no, quando, come una medicina, anche, come, sì. Come una medicina. Quando dicono: ma lui non si stanca, mollerà. Non mollerà mai. È ancora difficile vedere difetti in Berlusconi, ma qui siamo all'idolatria pura da parte di Ennio Doris. È difficile per me vedere difetti. Posso dire una cosa: lui vive il suo lavoro, prima di costruttore, poi delle televisioni, adesso politico, come un missionario, per cui non c'è spazio o ce n'è molto poco per altra cosa. Luca Telese in collegamento da Roma. Ce la strappa maliziosamente, per qualche cosina lo spazio c'era, ma qualche cosina, Luca Telese, collegamento da Roma. Io sono sicuro che non direbbe di Berlusconi. Cosa disse Cossiga? Berlusconi, meraviglioso. Un giorno gli disse: secondo me tu sei l'anticristo. Addirittura. Anzi, lo disse pubblicamente. L'anticristo. E allora Berlusconi disse: ma insomma, mi copri gli insulti, mi hai detto anche che sono l'anticristo. E così gli disse: no, ma guarda che una delle figure letterarie più importanti dell'Ottocento tedesco, cioè un grandissimo romanzo. E allora Berlusconi rimase un attimo titubante e poi disse: vabbè, spediscimi il libro. Lo sai chi non direbbe mai, secondo me, che Berlusconi è un dono di Dio? Il governatore del Veneto, Luca Zaia, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Mi scuso, ma io l'intervento di Telese non l'ho sentito. Comunque, se mi sente, saluto Luca Telese. Dove si trova? Buonasera. Dove si trova, Zaia? Io adesso, in questo momento, mi trovo in vacanza, ma comunque sono sempre operativo. Ma quello lo sappiamo. In vacanza dove? Siamo molto curiosi, perché l'altro giorno... Ah, guardi. Si può dire? In quella parte di Repubblica Veneta che non abbiamo più, nel senso che sono in Istria adesso. In Istria. Dunque, lei non segue il consiglio del ministro Brambilla, vacanze italiane, per carità, l'Istria... Ma ha ragione il ministro. Io vengo, fra l'altro, da una regione che è la prima regione turistica d'Italia, con 62 milioni di presenze turistiche. Però è andato in Istria. Però voglio anche ricordare che il Veneto considera questa parte della Croazia e la Dalmazia una parte molto vicina a sé, prova ne sia che abbiamo anche molti finanziamenti come veneti proprio per il recupero di questa parte identitaria delle nostre terre. Vabbè, adesso non la butti così. Anche il ministro... Guardi, io non è che prepara la riconquista. Anche il ministro in realtà poi se ne andava in Francia in vacanza. Vorrei anche ricordare, perché molti non lo sanno, che in Dalmazia e in Istria si parla il veneto, si parla quella lingua che molti non vogliono riconoscere come lingua in Italia. Vabbè, insomma, comunque, in ogni caso, lei è andato in Croazia, che è Istria, invece di andare in Italia. Ma noi non ce ne frega niente, Zai. Io trovo che questi appelli al fare turismo in Italia siano un po' ridicoli. Lei non li trova un po' ridicoli? Ma no, guardi, io capisco la filosofia, la condivido appieno. Tant'è che da vicepresidente della regione a suo tempo, quando avevo la delega al turismo, presentai anche una sorta di quadro sinottico dimostrando che le famose vacanze, che so, nel Maghreb, in Tunisia, piuttosto che da altre scusi, nel Nord Africa, piuttosto che in altre aree, tipo la Turchia, una settimana costava sicuramente di più che farla, che trascorrerla in Veneto, in spiaggia. E in Istria quanto costa? Ma guarda, in Istria è una cosa abbordabile, diciamo, al pari del Veneto, nel senso che non è... per noi è un unicum, nel senso che i veneti vanno comunemente in Istria piuttosto che in Slovenia. Cioè. Vabbè, insomma, Luca, il ministro se la gioca in questo modo, dice che per lui l'Istria più o meno il Veneto. Ma infatti io pure, uno dovrebbe dire, uno va in vacanza dove vuole, questi appelli da parte del ministro Brambilla, andiamo in vacanza in Italia e poi in realtà la troviamo in Francia, vabbè, lasciamo perdere. Lo sai che abbiamo perso, caro Luca, la battaglia per Morgan? Noi l'abbiamo persa questa battaglia, te lo dico subito, te lo anticipo. No. Sì, perché l'ammazzata finale è arrivata proprio dal governatore del Veneto. Il governatore sa benissimo che noi abbiamo cercato di convincere il sindaco di Verona Tosi a tornare indietro rispetto alla decisione iniziale di privare Morgan di un concerto a Verona, non perché sia fondamentale per la vita, per l'Italia, eccetera, perché non capiamo. Morgan ha commesso un errore, sta cercando di riparare, sta facendo un percorso personale, perché bandirlo da Verona? Adesso addirittura leggo che lei, governatore, lo vorrebbe bandire da tutto il Veneto, ma com'è possibile? No, guardi, io ho fatto una considerazione un po' più seria di come viene presentata, nel senso che ho detto che mi metto nei panni degli amministratori, non ultimo di Tosi, nel momento in cui si chiedono se questo può rappresentare, se questa persona può rappresentare un modello positivo per i ragazzi. È sicuramente un punto di riferimento per i giovani. Direi che Morgan, come molti altri artisti che hanno avuto i problemi che ha avuto lui, dovrà fare anche lui un percorso, come si può dire, di rientro nella regolarità, visto considerato che le dichiarazioni che fece erano forti. Dall'altro però anche detto, siccome mi è stato chiesto, glielo dico prima che me lo chieda lei, siccome mi è stato chiesto, ma il rapporto droga giovani testimone, io ho detto, guardi, io ho fatto il test in diretta, mi sono fatto prelevare i capelli per il test antidroga, penso che ad esempio un bel segnale lo potrebbero dare i docenti delle scuole, quindi gli insegnanti. Adesso passiamo agli insegnanti, però prima vorrei capire da lei, davvero lei pensa che Morgan, finché non fa non so che cosa, o finché non esce da non so quale percorso, che è molto complicato, molto lungo, non possa cantare in Veneto? Davvero lei lo pensa? Guardi, io penso che non sia un problema territoriale, penso che se noi legittimiamo l'idea che si possa, come si può dire, legittimare un outing come quello che ha fatto lui, che non è che ha detto ho assunto stupefacenti, mi pento, ho iniziato un percorso di redenzione, come guardi, io ho superato il limite di velocità in auto, mi sono scusato con i ragazzi e per dare un segnale positivo ho chiesto di poter fare una nuova patente, la mia non era stata ritirata e ho fatto la patente del camion. Lui, se non ricordo male, uso il se, che il condizionale è d'obbligo, allora fece delle dichiarazioni, ripeto, se non ricordo male, come riportato dai giornali, che dice, ma io ho utilizzato questi stupefacenti come una sorta di antidepressivo. A me sembra che è una inutile legittimazione comunque dello stupefacente. Sì, a parte che Morgan contesta queste cose, ma lasciamo perdere il merito, sta facendo un... questo è un problema di Morgan con il magazine, quindi con... Sì, con Max, d'accordo, anche lei dunque è convinto come Tosi che l'immagine di Morgan ormai sia legata indissolubilmente a quell'intervista contestata, lei lo pensa per davvero? No, guardi, se io fossi l'agente di Morgan, avrei già consigliato a Morgan di fare un bel percorso serio. Un percorso che hanno fatto molti artisti, perché comunque... Percorso di che tipo? Di recupero? Ma lo sta facendo? Ma guardi, non solo di recupero, ma anche di volontariato, di azioni che aiutino anche a sensibilizzare. Cioè deve diventare testimonial. Per assurdo anche un buon testimone, abbiamo degli esempi eclatanti. Certo è che fino ad oggi, oltre alle polemiche, non c'è stato nulla, se non qualcosa di personale, che immagino lui voglia, che so, disintossicarsi, piuttosto che porre fine a questa dipendenza che ha, che comunque è un aspetto non salutare. Senza fare i bigotti e senza fare... No, però lei ha detto, per me Morgan non potrà mai cantare in Veneto, questo l'ha detto. Fosse per lei non lo farebbe cantare. Guardi, io non ho mai dichiarato questo. Leggo dei virgolettati qua. Guardi, io non ho detto Morgan non potrà mai cantare in Veneto, ho detto che con queste condizioni, glielo ripeto, non è il caso che Morgan canti in Veneto, punto. Vabbè, che è la stessa cosa, insomma, con queste condizioni. No, mai, non è la stessa cosa. Mai, finché... Che deve succedere perché possa essere ammesso, secondo lei, in una piazza? Cruciani, l'italiano non è un'opinione, no, ma non so, è la stessa cosa. No, no, d'accordo, sì. non è mai, naturalmente, non è mai in questa situazione, diciamo, no, lei ha detto. Ad esempio, avevo suggerito al giornalista, non so se l'ha scritto, io l'articolo non l'ho visto, penso che ad esempio occuparsi di un problema, che so, in collaborazione ad esempio con le scuole, potrebbe essere una bella iniziativa con i giovani, si fanno un sacco di iniziative, insomma abbiamo fior fior di testimoni. Ho capito, cioè adesso prima deve dare un segnale, secondo lei, Beh, e poi... Sì, guardi, agli atti, per Morgan oggi c'è questa intervista e il fatto che lui sia incazzato, punto. A me non risulta che ci sia qualcos'altro. Beh, sta facendo un percorso personale di recupero. Luca Telesi, aiutami tu. No, ma io sono stupito perché Luca Zaia è, prima di essere un amministratore, un uomo giovane, non bigotto. Cioè, mi colpisce che abbiate deciso di prendere, ad esempio, Morgan per fare una crociata simbolica. Ed è un tunnel pericoloso, perché dopo dovrete vagliare tutte le biografie, tutti i certificati, tutti che farete? Chiederete il certificato medico a ogni cantante che entra in Veneto? Non so, a Vasco Rossi o a qualcun altro che magari Vasco è chiacchierato Rossi da questo punto di vista. Può cantare Vasco Rossi? Zaia? Scusi, ma io a Telese lo sento poco. No, dice, cioè, è un percorso un po' pericoloso, perché a questo punto dovete vagliare il... Vasco Rossi può cantare in Veneto? Io direi che Vasco Rossi ci ha già cantato anche in Veneto. Il tema è questo. Ho l'impressione, no, che ha fatto anche lui uso di droga. Sì, sì, sì, sì, ma io gli ho citati prima gli artisti che comunque hanno fatto outing. Ma il problema è che forse Morgan è l'agnello sacrificale, il capro espiatorio di tutta questa faccenda. Nel senso che lui forse nell'ingenuità ha fatto un outing che è andato oltre l'outing. Nel senso, se è vera questa frase che dice che comunque lo stupefacente si può utilizzare anche come antidepressivo, contesterà le frasi, ha detto che non le ha dette, ma comunque il dato di fatto è che si dovrebbe rimboccare le maniche, magari fare qualche iniziativa, dare qualche segnale. Noi oggi agli altri abbiamo questo. Io ripeto, non capisco perché questo accanimento nei confronti di Morgan. Per carità, qui non è che si vuole fare di Morgan una vittima, perché no, certo, avrà la possibilità di lavorare sicuramente, però sì, ripeto, governatore, se si prende, cioè se si utilizza la questione del messaggio, il messaggio negativo per i ragazzi, allora guardi che poi bisogna vagliare un sacco di persone che si vanno a esibire in Veneto da tanti punti di vista, non solo dal punto di vista della droga. Cos'è un messaggio positivo, cos'è un messaggio negativo? Si entra in una questione un po' complicata da risolvere, non crede lei? Guardi, io la penso esattamente come lei, però se una persona sostiene che la dipendenza è un problema, deve essere risolta, dice io purtroppo ho questo problema, è una cosa, e questo lo fanno molti artisti e alcuni hanno avuto anche il merito poi di essersi impegnati anche socialmente. Se una persona invece dice vabbè, ma la droga è un antidepressivo, vabbè, ti aiuta quando sei stanco, cioè questo non è un messaggio positivo. Sì, ma questo non c'è dubbio, però lei dice c'è una differenza tra chi... Prego, no, lei dice c'è una differenza tra chi fa un coming out, un outing, diciamo, chiamiamolo come vogliamo, normale, chi invece... Però, insomma, innanzitutto abbiamo lo scritto del settimanale, non è che sapevamo l'intonazione della voce di Morgan, in che modo l'avesse detto, in che condizioni era, ma uno non può essere impiccato ad una frase. Sì, dimmi Luca, dimmi. Io vorrei che facessimo sentire a Zaia, che sicuramente le conosce già, sì, il ritornello di Piccolo Spazio Pubblicità di Vasco Rossi. Una canzone che, se uno usasse i parametri ultra bigotti, può essere detta come un'apologia della droga. Sì, no, ma non c'è dubbio. Infatti dico che è un terreno piuttosto... Con la Coca-Cola io ci vado a scuola. Famosissima, mica certo. Parlava delle bollicine della Coca-Cola. Parlava di un'altra cosa. Allora, a questo punto che succede? È un messaggio negativo. Eppure credo che un concerto di Vasco Rossi in Veneto ci sia stato. Cioè anche in un periodo, insomma, di... da quando ci sono amministratori della Lega. Però Zaia, secondo me anche la sua idea del test ai professori scolastici, insomma, è anche quello piuttosto complicato, perché metta che si scopra che qualcuno fa uso di sostanze stupefacenti, che ne so, di cannabis o cose di questo tipo, che succede a quel punto? Ma guardi, a me risulta che in Italia siamo tutti chiamati a rispettare la legge, no? Noi politici per primi, che siamo chiamati a dare il buon esempio. Io sono finito dal trattacarne, sono stato un mese alla gogna pubblica 3 anni fa per aver superato il limite di velocità con la mia auto, avendo pagato la multa come deve fare qualsiasi cittadino, senza aprire la bocca. Un mese di gogna pubblica compagine dei giornali. Ecco, non capisco perché un insegnante non debba dimostrare, ad esempio, non debba dare un bel segnale ai ragazzi dimostrando: guardate, la droga è un problema, noi siamo i primi a dimostrare che non siamo però drogati. Mi scusi, no, d'accordo, però un insegnante in realtà, quando dà segni, diciamo, di squilibrio particolare, cioè in casi gravi si interviene in maniera quasi, no, scontata, interviene il preside, eccetera, perché affidare il test del capello per scoprire che magari c'è un uso di sostanze stupefacenti leggere, cioè è un modo per mettere alla gogna le persone, o no? Guardi, io non so se lei manderebbe sua figlia a scuola, o suo figlio, mi perdoni, e possa accettare di avere, un insegnante che si droga. A me risulta che la gran parte degli italiani questo non gli va bene. Siccome in Italia è proibito fare certe cose, non capisco perché ci poniamo il problema. Io comunque lo ponevo non per dire che la classe di insegnanti è una classe di drogati. No, beh, immagino. Ma per dare un bel segnale, scusi. Io ad esempio sono convinto che i politici dovrebbero essere i primi a dare questo segnale. Luca, quando tu che dici sugli insegnanti? Sì, quando le Iene fecero? Ma guardi, quando le Iene fecero i famosi prelievi del sudore con la salvietta, secondo me è stato ignobile aver bloccato tutta quell'operazione. Io penso che fosse, per carità, un'operazione giornalistica assolutamente degna e legittima, secondo me. Però dopo le iniziative parlamentari di Giovanardi, di La Russa, del capello, le trovo ridicole. Luca, tu manderesti tuo figlio a Zaia, se lui la vuole questa responsabilità? Cioè, in quale paese del mondo, tranne l'Iran, la politica si assume la responsabilità di decidere chi deve cantare e chi no, chi consuma droghe, chi no, chi è moralmente corretto e chi no? Io dico, vi state infilando in un tunnel pericoloso. Cioè, non è che oggi decidete chi canta e chi non canta, domani decidete chi è probo e chi non è probo, chi ha la fedina penale a posto, chi è divorziato. Zaia, se uno, al di là dei divorziati, eccetera, Zaia, se uno dicesse io sono uno che beve 3 litri di whisky al giorno e però vado sul palco e sono straordinario sul palco, lei cosa farebbe? Gli proibirebbe il palco? Ma guardi, uno che fa una dichiarazione del genere e legittima questo, cioè legittima una dipendenza, secondo me non è un dato positivo da divulgare ai ragazzi. Però è altrettanto vero che se questi non sono problemi come sostenete voi, no, non dico che non è altrettanto sono vero che non lo dovrebbero essere per tutti i cittadini, allora c'è una disparità di trattamento. Se un politico si trovasse nella situazione di Morgan sarebbe la gogna pubblica. Quindi no, siete due giornalisti. No, ma assolutamente sarebbe la gogna pubblica. Però scusi Zaia, c'è una differenza sostanziale. Un politico amministra la cosa pubblica, Morgan lo va a vedere chi vuole. Guarda, Morgan è un testimonial, Morgan sarà anche un imprenditore, avrà la partita IVA, paga le tasse come tutti fanno tutti i bravi cittadini, ma è un opinion leader, è un testimonial, è un punto di riferimento per i ragazzi. E quindi ha anche una Jimi pubblica. Hendrix in Veneto non avrebbe suonato, perché era un noto tossicodipendente. Lou Reed in Veneto non potrebbe suonare, perché per anni ha scritto anche una canzone sulla sua dipendenza. Essere tossicodipendenti non vuol dire non vuol dire andare poi a dichiarare pubblicamente che la droga può essere, che so, un analgesico piuttosto che un antidepressivo o qualcos'altro. Il punto è quell'intervista là, questo abbiamo capito. Il punto è l'intervista, peraltro contestata, in cui Morgan dice: io uso cocaina come antidepressivo, eccetera, eccetera. Ho capito che il punto è quello, però Zaia, lei si rende conto che non si può essere impiccati una frase, peraltro contestata, no? Nella vita, perché altrimenti cacciato da X Factor, cacciato dalla Rai, adesso il Veneto off limits, insomma, se si va avanti. Ma si è fatto un sacco di pubblicità, dovrebbe ringraziarci poi alla fine. Vabbè, Luca, io però volevo chiedere un'ultima cosa a Zaia, che non c'entra niente. È la terza volta in 15 giorni che il leader della Lega, Bossi, indica il dito medio ad un giornalista, un cronista, ai fotografi quando gli fanno una domanda. È ormai un cliché, un modo di fare. Cosa significa, Zaia? Lei lo approva questa cosa qui? Ma certo che non stupirsi per le dichiarazioni di Morgan e chiedersi come mai Bossi fa il dito, cioè. Non volevo fare paragoni, non c'entra niente il paragone. Ho detto archiviamo l'argomento Morgan, non c'entra niente. Siccome no, guardi, io penso che sia innanzitutto indicativo del fatto, nonostante sia anche il dito, ma sia indicativo del fatto che magari il capo è veramente in buona forma in questo periodo, no? Ah, è per questo, è in buona forma e dunque fa il dito medio? Ma nel senso che non è un messaggio altamente educativo, per noi esatto. È un messaggio per educativo? No, non è un messaggio educativo. Dico semplicemente che rientra nella gestualità e penso che anche Telese qualche volta lo faccia, no? Sì, diciamo, Telese... non troppo spesso. Anch'io non troppo spesso, devo dire la verità. Anch'io troppo spesso. Poi ho paura di non poter più venire a lavorare in Veneto. Telese è già invitato in Veneto, lo sa, e invitiamo anche Cruciani perché adesso abbiamo il Festival del Cinema, vi aspetto, assolutamente. Però mi dica lei non lo farebbe, è un gesto volgare o no? O è solo la gestualità di Bossi, che è un personaggio politico un ma po' normale? Ma è un ragazzo per bene, non le fa quelle cose. Fa parte della mimica personale, ognuno fa i gesti, magari io faccio dei gestacci peggiori, cioè non lo so, non li so qualificare, ma sinceramente cioè non è, ormai quel gesto non rientra neanche più nella volgarità, a meno che non sia dedicato, che so, a un automobilista quando ti attraversa la strada o qualcos'altro. Fatto sta che Bossi lo fa quando è intervistato sulle cose politiche. Però lo sai, Luca, e mi rivolgo a Telese, perché io non riesco mai a tirare fuori da dirigenti della Lega, che pure stimo, una cosa, dice no, Bossi ha sbagliato. Come mai? Beh, perché c'è un culto del capo, questo mi pare del tutto evidente. Perché non ha sbagliato, dice Zaira, perché non ha sbagliato. E dunque lei la laurea honoris causa gliela darebbe a Bossi? In comunicazione, là, che cos'è? Zaia, gliela darebbe la laurea a Bossi honoris causa? Beh, che Bossi sia un comunicatore non l'ho sancito io, lo sancite voi da giornalisti, perché lo avete... Questo è vero, è un comunicatore, non c'è dubbio. Dunque merita la laurea honoris causa dall'Università dell'Insubria? Io penso proprio di sì, anche perché comunque ha introdotto nella politica un nuovo modello di comunicazione, condivisibile o meno, c'è chi lo contesta, chi lo condivide, però obiettivamente c'è un nuovo modo di comunicare in politica che è stato portato da Boss. E vedi, Telese, non riesco, non ci si riesce, nulla, non c'è nulla. E il gesto, il dito medio non è volgare, e poi che cosa? Lo fa Bossi. Pensa se lo faceva Morgan. Vorrei sapere cosa diceva se il dito medio l'aveva fatto Morgan. No, magari dal palco. Se lo faceva Morgan era comunque assolto. Però potrei dire un'altra cosa, visto considerato che abbiamo un sacco di cittadini che ci stanno ascoltando, molti dei quali sono leghisti, poi magari li chiamano a fine trasmissione. Potrei dire che noi benediciamo e difendiamo sempre il capo, però se io iniziassi a fare a voi due un po' di domande sul vostro direttore, sono sicuro che sarete reticenti fino alla fine. Sì. Mettici alla prova. Sì, dipende che domande, naturalmente. Se il mio direttore facesse un gestaccio... quello che voi di solito ci fate sul capo. Se il mio direttore facesse un gestaccio del genere, io penso non avrei problemi a... Un gestaccio, poi lui lo fa sempre sorridendo, tranne a Pizzi, l'ha fatto un ma po' dai, arrabbiato. Ma non è un gesto di stizza, di cattiveria, lo fa sorridendo. Quando volete parlare con lui ci parlate sempre, ci scherzate. È una persona che comunque ha condiviso con voi 20 anni, 25 anni della storia di questo paese, della politica di questo paese, non potete star qui a fare la polemica estiva adesso sul dito di Bossi. Lo sdoganamento del dito medio. Grazie Zaia, buonasera. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Luca. Grazie, buonasera. È come dire buongiorno e buonasera. Zaia è così persuasivo che mi sono convinto che se non mi fanno il dito medio... Adesso, domani, quando entri in redazione, fai il dito medio a tutti. Certo, fare no, appena vedo Bossi glielo faccio. Vediamo come reagisce lui. Sentiamo come il TG2 riassume la giornata finora. La Banca Centrale Europea lancia l'allarme, a rischio la ripresa economica. In Italia balzo in avanti dell'inflazione, negli Stati Uniti crescono le richieste di sussidi per la disoccupazione. Polemiche dopo l'intervento di Montezemolo sulla situazione politica. La maggioranza si ricompatti, dice, ma Berlusconi finora ha deluso. Replica il PDL, scenda lui in politica. Un elicottero diretto alle Isole Eolie precipita dopo aver urtato un capannone poco dopo il decollo e prende fuoco. Morto il pilota e 3 passeggeri. Forti temporali sul nord Italia, allagamenti in particolare in Lombardia, dove è esondato il fiume Lambro, disperso un velista sul lago di Garda. Studio aperto. Il Robinson 22 era partito da Giammori, in provincia di Messina. Dopo 2 minuti di volo lo schianto, l'elicottero ha preso fuoco. I 4 a bordo sono morti tra le fiamme, che hanno reso irriconoscibili i corpi. Temporali grandinate, la bufera di mezz'estate colpisce il nord. Disperso un velista sul lago di Garda, allagamenti nel milanese dove è esondato il Lambro. Ma garantiscono agli esperti il Ferragosto è salvo. Pronto? Nella maggioranza c'è bisogno di un... Pronto? Cerchiamo Luciano Gaucci. È caduta la linea con Santo Domingo, ma ci riproviamo subito, dobbiamo riprovarci subito. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Stiamo cercando di collegarci ormai da 3 giorni con Casa Gaucci a Santo Domingo per sentire dalla voce di Gaucci qualche notizia sulla famiglia Tulliani e tutto quello che sapete. Tentativo, ancora un altro tentativo. Su, via, niente. Pino da Padova, buonasera. Buonasera Cruciani. Anche lei vuole sentire Gaucci, vero? Anche lei vuole sentire Gaucci. Direi di sì. Lo so, stiamo tutti aspettando da giorni di sentire la voce di Gaucci qui in diretta alla Zanzara. Ormai settimane direi. Settimane, non esageriamo. Secondo me non si fa trovare. Tentativo, quindi. Sentiamo. Bienvenido al correo de voz. No. Después del tono su llamada será facturada. Forse ha ragione Pino. Non si fa trovare, su vero? Ha sido transferida a un sistema de correo Pino. De voz. Bene, Cruciani, io volevo intervenire sulla questione di Morgan. Forse ha ragione lei, non si fa trovare, lo sa. No, non si fa trovare. No, ma non è possibile, io ci ho parlato ieri, mi ha detto sì, ci risentiamo fra due ore. Ma parla solo in privato con lei, Cruciani. Poi dice in pubblico niente. Alla radio niente. Forse no. Alla radio forse no. Vabbè, insomma, Morgan, che voleva dire lei, Pino? Morgan, sì, dico che io penso che questa questione sia prima di Tosi, poi del Presidente, già sia una vera porcata, perché si eleggono a educatori, ma sono poco rispettosi del pensiero di tutti gli abitanti del Veneto. Io credo che sia, come al solito, un puro spot elettorale della Lega, che sotto elezioni tiene in mente di tutti i colori, ma anche fuori dalle elezioni, perché è sempre campagna elettorale, e ora il capro espiatorio è diventato Morgan. Cioè, come diceva giustamente Terese, non ce n'è solo una di canzone di Vasco Rossi, ma potremmo elencarne tantissimi di cantautori, che scrivono nelle canzoni ciò che hanno subito, che hanno fatto nella loro vita, solo perché Morgan ha avuto la fortuna di fare, o la fortuna, insomma, dipende dai punti di vista, di fare un'intervista e di non scriverla in una sua canzone, ora è diventato il fenomeno mediatico da mettere alla gogna. Io ritengo che loro dovrebbero pensare esclusivamente ad amministrare, non a fare gli educatori, perché è poco rispettoso intanto di chi è in grado di decidere da solo se mandare i propri figli o meno, certo, a sentire, certo, il suo concerto. Certo, lei ha ragione, Pino. E in secondo luogo ritengo che anche se fosse un modo per attirare voti, perché io penso che sia esclusivamente sì, così, ritengo che anche quella parte di elettorato che vota Lega Lombarda sia in grado da solo di decidere se andare ad un concerto di Morgan o meno. Sì, la terza cosa qual è? E la terza cosa è che c'è anche a chi non gliene frega niente di ciò che dice la Lega e ritiene Morgan un artista che vale la pena di ascoltare ad un concerto. Non c'è dubbio, lei, mi sembrano ragioni sufficienti. Senta un attimo. Pubblicità. L'ago della pasta. Spazio pubblicità. Piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. È la canzone di cui parlava prima Luca Telese. Pino, la ringrazio. Carlo da Napoli, buonasera. Buonasera. Io volevo fare un commento sulle affermazioni di Luca Telese di ieri per il cognato di Gianfranco Fini. E lui affermava che dovrebbe essere interdetto il cognato di Fini per quello che ha fatto, per il modo in cui... Naturalmente interdetto in senso... figurato, cioè, poi interdetto da cosa? Ma non ho capito, questo ci dovrebbe spiegare Telese, forse lui voleva far passare la linea che Fini è un ingenuo, che insomma c'ha questo cognato che non si controlla. Questo non lo sappiamo, se vuol dire quanto in realtà poi Fini sapesse e sappia delle attività del cognato, tra virgolette, perché poi non è cognato in senso stretto, anche se poi Fini fa parte del nucleo familiare della famiglia Tulliani. E vabbè, comunque non si può far passare l'idea che Fini, dopo una vita da politico ai massimi livelli, sia un ingenuo. Carlo, io questo non lo so, ingenuo rispetto a cosa? Rispetto alle attività di Tulliani, di Elisabetto Tulliani, come lo chiamavano a Viterbo, pare? Che suo cognato, adesso che non lo sia suo cognato, va a vivere nell'appartamento che lui ha venduto o il partito ha venduto, mi sembra un po' eccessivo. Poi se noi ci dobbiamo credere, me lo dica lei. No, ma Carlo, io non... questi sono un po' processi alle intenzioni, quanto sapesse, no, quanto sa delle attività di Giancarlo Tulliani, francamente non lo so. Io so solo che in politica, quando si ha a che fare con la cosa pubblica, sto parlando della vicenda delle consulenze RAI, e in parte anche quando si ha a che fare con i beni di un partito, credo che bisogna tenere lontana la propria famiglia, bisogna tenere lontani i propri familiari, non bisogna mischiare le due cose. Credo che nel caso di Fini non sia stato fatto, ma non è un difetto solo finiano questo qua. La ringrazio, Carlo, che ci chiamava da Napoli. Andiamo a Brescia con Giordano, intanto riproviamo con Casa Gaucci, perché prima abbiamo sentito un piccolo spiraglio. Giordano da Brescia, buonasera. Buonasera, volevo intervenire a proposito di Morgan. Dica. Tanto per cambiare. Volevo dire che la polemica mi sembra un po' eccessiva, soprattutto per quanto riguarda il fatto che Morgan non riesca più a lavorare, e insomma, io direi che può scendere... Casa Gaucci, aspettiamo un attimo. Niente da fare. Venido al correo de voz viva. Después del tono, su llamada será facturada. È il numero di Luciano Gaucci a Santo Domingo. Niente da fare. Ma noi non demordiamo. Siamo qui. Siamo qui e insistiamo finché non sentiamo Gaucci alla Zanzara a raccontarci della famiglia Tulliani. Giordano, che stava dicendo? Niente Gaucci, mi dispiace. Ancora niente Gaucci, però insomma... Forza, forza con Gaucci. Insistiamo. Devo dire che non vedo proprio Morgan homeless, vivere in mezzo alle strade perché non riesce a guadagnare i soldi. Oltretutto io penso che se scendesse a compromessi con se stesso, farebbe anche una buona, bella figura. Si dimostrerebbe... Quale sarebbe il compromesso, mi scusi? Il compromesso sarebbe diventare di testimone andare... antidroga, come... Bravo, pretendono Zaia. Perfetto, ma no, perfetto. Ma questa è una cosa ridicola, Giordano. No, secondo me non è ridicola. Bah. Forse sembrerebbe un po' più maturo, più adulto, la qualcosa gli verrebbe comoda anche per l'eventuale tentativo di rapidamento della figlia, secondo me. Ho capito, cosa dovrebbe fare? Ha già detto quello che pensa Morgan? Tutti noi che lavoriamo in Italia da sempre, io adesso ho quasi... Facciamo anni, dei compromessi, dice lei. Facciamo miliardi di compromessi. Io ho nascosto le mie idee quando mi faceva comodo, o diciamo mi era utile non mostrarle, e costantemente tutti i giorni mangiavo un pochino di quella sostanza che è stata sdoganata proprio da Fini. Cioè la merda, insomma. Esatto, avrei detto cacca o pupù. No, io parlo come parla la gente, dunque dico merda. Un po' di senso delle cose. Ma io non so che cosa dovrebbe fare. Francamente, lei pretende, tra virgolette, che Morgan faccia un atto pubblico in ogni concerto, non so, magari iniziando proprio da quello di Verona all'inizio di settembre, per dire: io sono contro la droga fa schifo, ragazzi, non vi drogate, eccetera. Io credo che sia un'ipocrisia questa qua. È ipocrisia, ma guardi che la società si basa in gran si basa parte sull'ipocrisia. Nei rapporti, sia nei rapporti sociali che nei rapporti familiari, l'ipocrisia la fa alla grande. Ma io credo che nessuno si sarebbe accorto, francamente, di un concerto di Morgan a Verona all'inizio di settembre se non ci fossero state le uscite prima del sindaco di Verona Tosi e poi del governatore Zaia, due persone che io stimo e che però secondo me stanno commettendo un errore, e credo per tornaconto politico, probabilmente anche per convinzione, non lo so. Giordano, lei dice Morgan non deve essere così rigido nel non voler dire una parola contro la droga pubblicamente, forse sarebbe stata una via d'uscita nei confronti del sindaco di Verona. Io credo che ognuno deve rimanere se stesso nel bene e nel male, e non è perché uno rimane se stesso poi debba essere interdetto dalle piazze del Veneto come vorrebbe Zaia. Io potrei rispondere con la definizione che ha dato di Berlusconi Don Verzè 15 giorni fa sopra il Duomo di Milano, e Don Verzè gli ha detto: tu sei un dono di Dio per le persone che hanno la fortuna di avere rapporti con te, per il prossimo tu sei un dono di Dio. Io sono assolutamente convinto di questo. Ma lui vive il lavoro come una missione. Difatti, no, quando... come una medicina anche, come, se... come una medicina. Quando dicono: ma lui non si stanca, mollerà. Non mollerà mai. La promessa barra minaccia di Ennio Doris: Berlusconi non mollerà mai. Marco da Napoli, buonasera. Sempre col sottofondo Pronto, buonasera, del... mi sente? Sempre col sottofondo dell'alleluia. Sì, Marco, però spenga la radio, abbia pazienza. Spenga. Adesso tolgo anche il viva voce, ma mi sente? Ecco, meno male. Ha messo tutto, radio accesa, viva voce, il peggio ho del peggio. Tutto, radio, viva voce. Tutto, tutto. Butto via pure la macchina, guarda, non mi serve più. Senta, ascolti, prima di fare l'intervento che ho detto alle sue buonatrici, le posso fare una domanda? Faccia tutte le domande che vuole, Marco. Guardi, ma sarà strano, ma io mi chiedo e le chiedo, ma come mai che a me di Morgan non frega assolutamente niente? Sarò un cinico insensibile? Lei che dice? Visto che, come direbbe Gianluca Nicoletti, il suo collega, sì, ci ha massacrato le gonadi per mezz'ora, più di mezz'ora con questo Morgan. Ma veramente sono tre giorni che insisto su Morgan, dunque non solo oggi, anche nei giorni scorsi. Ma lo trovo, guardi, trovo, non so se interessi, non interessi, eccetera. Probabilmente interessa poche persone, ma non è il punto non è la proibizione del concerto, è proprio la proibizione in generale. Il fatto che prima un sindaco importante e poi un governatore dicono: no, io non ti do la piazza perché tu hai fatto una dichiarazione pro droga, diciamo, mettiamola così. Io lo trovo una cosa, io non ci penserei nemmeno, ma no, ma io non ci penserei nemmeno lontanamente. Cioè, Morgan ha i suoi problemi, eccetera, perché cioè, io non ti concedo la piazza perché tu hai fatto quell'uscita. La trovo una cosa un po' demenziale, lo devo dire. E dunque è per questo che insisto. Poi finirà questa storia, speriamo. Marco, speriamo. Però mi sembra che l'ha colpita in un certo... Sì, madonna, più di mezz'ora, eh. Vabbè, abbiamo chiesto anche del dito... La stazione radiofonica è un mare di quattrini. Se Morgan volesse pagare questa pubblicità, dovrebbe lavorare per lei tutta la vita. Ah, lei dice stiamo facendo pubblicità a Morgan. No, non lo dico, così mi è venuto no, in mente. No, dice indirettamente, per... indirettamente. Indirettamente stiamo... sì, eh. Indirettamente ha ragione Zai, allora, ci stiamo facendo... È un grosso spot questo. Grande spot. Più di questo non c'è... su Radio 24, alla Zanzara... che la trasmissione di punta di Radio 24. Io la ringrazio per questo, posso... però guardi, noi abbiamo avuto prima il sindaco di Verona, poi lo stesso Morgan, sì, adesso Zaia, poi chiudiamo, insomma, immagino che la polemica... Adesso io pure sto parlando di Morgan. Indirettamente lei dice non si deve parlare, però parla di Morgan. È il circuito dell'informazione, della comunicazione micidiale, Marco. È proprio qualcosa di trascinante. Senta, io volevo ha fermato la macchina? Sì, sì, ho fermato davanti tutto. Allo sfasciacarrozze, no? Sì, sì, ce n'ho uno qui alle spalle. Senta, volevo dire, dalla mia opinione su questi segnali di fumo, di pace e di tregua che ha... Lei dice, pensavo che volesse parlare di Montezemolo. Ma a margine, ma non proprio, volevo parlare proprio di Montezemolo, che è deluso da Berlusconi, dal governo Berlusconi, però dice non bisogna andare a votare. Sarebbero sei mesi inutili, e bisogna che Fini e Berlusconi si rimettano d'accordo per finire la legislatura. Io sono d'accordo con Montezemolo. Lei è d'accordo? Sono d'accordo con Montezemolo, anzi. Ma perché dice queste cose Montezemolo? Perché è una persona responsabile oppure perché vuole scendere in politica col cosiddetto terzo polo? Ma secondo lei? Perché ogni tanto gli va di prendere un po' le pagine dei giornali, è un po' di narcisismo, credo io. Lei dice? Non credo che voglia scendere in politica, che gli frega lui della politica. Beh, insomma, Marco, io se fossi Montezemolo tutto farei tranne che scendere in politica. Beh, se uno poi ha fatto tutto nella vita, a un certo punto magari si vuole divertire con la politica. Ma non credo che sia divertente, sa. Lei dice, anzi, è un po' stressante se fatta veramente. Se poi uno la fa per scherzare, può essere pure divertente. Ma comunque, se secondo lei non vuole fare politica attiva, diciamo, non si vuole presentare alle elezioni. No, per me è un po' di narcisismo comunicazionale. Narcisismo di comunicazione, può darsi. Io credo che veramente non si vada alle elezioni. Perché... Lo vede, Marco? Siamo una radio libera, una radio di Confindustria, parla di Montezemolo così. Senza sì, problemi. Ma io ho grande stima di Montezemolo, solo che tutti noi abbiamo degli aspetti caratteriali. Montezemolo, quando lo ritiene opportuno, gli piace scagliare il sasso in piccionaia per vedere che effetto fa. Ma non credo che voglia scendere in politica. Si diverte. Fa parte della storia dell'industria italiana, la Ferrari, ma che scherziamo? Per carità, chapeau a Montezemolo, non che si diverte, si bravo, lui gioca. E poi tra l'altro non fa neanche dei guai perché ha detto delle cose sagge, non è sbagliato quello che ha detto lui. Lei dice che non si debba andare alle elezioni, io sono completamente d'accordo, è il motivo per cui ho telefonato. Io sono d'accordo sui segnali di fumo, sulla la tregua, perché le elezioni non convengono a nessuno, non convengono a Berlusconi perché lui ha interesse a portare a termine la legislatura per cercare di mantenere le promesse elettorali. Non convengono a Fini perché dopo le grosse figure di Melma che ha fatto... figure di Melma, scusi, di Melma? Ho detto Melma si può Melma, dire. Melma, si può dire anche merda, No, no, io non mi piace. Certo. Però Melma, allora figure di figure barbine dica, no? Figure barbine, di Melma. Figure barbine di Melma, barbine di fango, prima sputando nel piatto che ha cofondato nel quale e poi? E poi facendo strumentalizzare come un pollo dalla famiglia della compagna, suocera e cognato compreso. Non è tanto solo la casa a Monte Carlo, quello mi sembra una pagliuzza. E tutto il resto, i contratti televisivi. Sì. Questa donna ha già il pensiero, perché deve avere un pensiero veloce questa ragazza che vive con lui, perché dopo aver spolpato Gaucci strumentalizza il presidente della Camera dei Deputati. Per cui, a proposito di Giuliani, un attimo Marco, si fermi. Gaucci, risponda Gaucci. Lucianone mio. Venito al correo dei voti. Niente da fare, ma noi insistiamo stasera fino alle 8:30, lo voglio chiamare ogni 10 minuti, lo voglio circondare Gaucci. Marco, allora lei è favorevole alla tregua, mi sa che sono segnali di fumo che dureranno pochi giorni, poche settimane. A Fini non conviene, non si voterebbe neanche lui presumibilmente, e poi non conviene neanche all'opposizione, al PD, perché il PD oramai è una canna vuota, non ha un leader, non ha un progetto, non ha neanche un'identità. Insomma, non si poi gli italiani tutto vorrebbero tranne che in questo momento mettersi in mano a Rosi Bindi, Livia Turco, la Melandri, Franceschini e Bersani, per carità, sarebbe la fine, il disastro. Ecco, questa è la mia idea, per cui non si voterà, anzi si va avanti in una tregua, ma magari armata, ma si va avanti credo fino alla fine della legislatura, anzi me lo auguro perché di quello abbiamo bisogno. Marco, insomma, lei non mi dispiace come interlocutore, lo sa, ci chiami più spesso. Grazie, lei è molto gentile, però in chiusura le voglio dare un'ultima chicca. Se mi dica secondi. Marco, mi dica. Io ho sentito un ascoltatore di ieri che parlava del suo amico Luca Telese che è schierato. Sì. In effetti sono pochi che hanno un equilibrio professionale bipartisan come ce l'ha lei. Si deve rassegnare ad essere una mosca bianca, guardi. Perché vabbè, adesso non mi faccia. Non mi faccia. Le dita di una mano. Adesso non mi metta in imbarazzo. Non mi mette in imbarazzo. Uno è coso, chi è? Stefano Folli, un altro poi? Enrico Mentana, poi? Ferruccio De Bortoli, poi? Poi aspetti, siete 4C, Oscar Giannino pure riesce ad avere questo equilibrio professionale. Poi? E poi a qualche altra firma del Corriere della Sera. Poi sono tutti dei tifosi, come diceva quell'ascoltatore. Gente che invece di fare giornalismo fa informazione, fa propaganda. Grazie Marco, se no mi mette in imbarazzo, grazie. Arrivederci, auguroni. Arrivederci. Luciano Gaucci è di nuovo papà. Il settimo figlio. Ricordiamoli tutti quanti i nomi, via. Riccardo, Alessandro, Federica, Isabel, Leonardo, come si chiama? Come? Christopher. E Beatrice l'ultima. E Beatrice. La capacità riproduttiva di Gaucci è sempre sto misellaccio. È inarrestabile. Ma quando lo metti a riposo sto misellaccio? Vai. Benvenuto al correo de voz viva. Niente da fare. Roberto da Milano, buonasera. Buonasera. dico a lei grazie innanzitutto per avermi fatto sentire Ennio Doris, perché veramente è un grande regalo per questa giornata. E addirittura cosa, un regalo, nel senso che l'ha messo di buon umore, di buon umore. Cioè un pezzo di alta comicità, lei dice. Sì, sì, veramente mi ha messo di buon umore e veramente mi fa ricordare che quando lessi Erasmo da Rotterdam, sulla follia, mi rendo conto che effettivamente oggi avrebbe molto molto più materiale per scrivere. Al di là di questo intervengo perché io vengo da Verona e volevo far notare una cosa, in particolar modo a Telese. A Verona c'è moltissima gente che è d'accordo con Tosi. Allora, questo perché accade? Perché c'è indubbiamente un pensiero, quello che voi avete definito il tunnel, il terreno cedevole, che è un pensiero presente in tantissime persone. È chiaro che poi la Lega lo intercetta, ma non sa poi come svilupparlo. Ma il povero Morgan, che di fatto oggi è capo espiatorio, ma voi comunque con la vostra trasmissione lo state ampiamente salvando. Beh, lo ha detto però esplicitamente anche Zaia, diventa un capo espiatorio. Sì, no, ma è vero, lui poveretto oggi si trova in una situazione particolare, per cui su di lui va a cadere una riflessione importante, se cioè determinati fatti debbano più o meno essere all'interno di una società valutati positivamente o negativamente. Telese ha la posizione che dice, ma come, allora tu non faresti neanche cantare Vasco Rossi? Io gli dico una cosa, lei è contro le armi, Telese, senza dubbio mi risponderebbe, allora prenderebbe come testimonial o comunque come persona che lancia un messaggio a Luciano Lutring o qualche altro. No, però mi scusi, Roberto, qui non è che Morgan vuole diventare testimonial, deve fare un concerto, l'hanno invitato a fare un concerto, cosa c'entra testimonial? Non è che diventa testimonial della Regione Veneto, non è che andando in Veneto a fare un concerto rappresenta l'immagine del Veneto, vai in Veneto a Verona e non so dove in quale altra città del Veneto a fare un concerto perché lo pagano secondo degli accordi che ci sono, dopodiché c'è un sindaco che proibisce uno spazio pubblico, di quello si sta parlando. Allora, e credo comunque che questo sia una valutazione che va a sminuire la figura di Morgan, perché per me Morgan forse passerà alla storia pure come cantante, bravissimo peraltro, anche se non sono un intenditore. Vabbè, poi ognuno ha qualcuno può piacere, altro no. Ma io non so se passerà la storia per questo fatto. Assunto una veste, a mio parere, che certamente non immaginava di doversi mettere, che gli è stata messa addosso probabilmente, che oggi lo pone in una situazione indubbiamente difficile, però è un momento per riflettere sul tipo di società indubbiamente che molti vorrebbero o alla quale aspirano. E vi dico che in Veneto, soprattutto a Verona, moltissimi sono d'accordo con Tosi. Quindi io farei questo tipo di riflessione anche sì, magari sono d'accordo con Tosi, magari io non so se sono d'accordo con Tosi, secondo me no, magari sono d'accordo con Tosi e poi fanno uso e abuso di cocaina quotidianamente. Grazie a Roberto, ma dobbiamo dare la linea al giornale radio 800 24 00 24, restate qui. E siamo di nuovo qui in diretta con la Zanzara alle 19.15, 800 24 00 24. Andiamo a sentire come ci presenta la giornata il TG3. La Russa, Finiani divisi, vedremo a settembre se sono davvero pronti al dialogo. Bocchino compatti nel chiedere basta alle aggressioni a Fini. Montezemolo, no al voto, Berlusconi deludente, ma la maggioranza si ricompatti e faccia le riforme, il PDL scenda in politica. Boom dei disoccupati americani, dato peggiore delle attese, la Banca Centrale Europea avverte, in Eurolandia la ripresa già rallenta. Nel mirino dell'Agenzia delle Entrate anche Vasco Rossi e Massimo Boldi, scovate finte società di noleggio per eludere il fisco sui yacht di lusso. Il comune calabrese di Caolonia del voto agli immigrati, ma il governo boccia l'iniziativa. Il sindaco ricorre alla Corte dell'Aia. Finisce in rissa la polemica sulla nomina di Sgarbi a sovrintendente a Musei Statali di Venezia e ora sotto esame dalla Corte dei Conti. Agli europei di nuoto a Budapest, Federica Pellegrini vince la medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero, oro alla danese Fries. Vacanza a tempo determinato. Grazie senatore, arrivederci. Grazie, buona serata. Allora, purtroppo 4 morti su un elicottero decollato da Milazzo, destinazione. Abbiamo fatto uno switch verso Emilio Fede, il TG4. Torniamo ai titoli. Sky TG24. Precipita elicottero nel Messinese, muoiono in 4, si indaga sulle cause. Maltempo al nord, esondazioni in Brianza, un disperso sul Garda. Incredibile tragedia nel Salernitano, bimba di 3 anni uccisa da una balla di fieno. Pace ad orologeria nel PDL, Montezemolo boccia Berlusconi e il voto anticipato. Luglio amaro per l'inflazione, la BCE lancia l'allarme per il calo della crescita. Mega yacht nel mirino della Guardia di Finanza, Vasco Rossi e Massimo Boldi. Alluvioni in India, la Farnesina rintraccia la maggior parte degli italiani dispersi. Per agosto con il nuovo codice della strada, da domani in vigore le nuove norme. Europei di nuoto per la Pellegrini, un bronzo negli 800 e polemiche con Balotelli. Le stelle del Mediterraneo brillano al Marvera, triangolare tra Napoli, Palermo e Valencia. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Non c'è parola più abusata, espressione più abusata in queste ultime settimane dopo il divorzio tra Fini e Berlusconi, di governo tecnico. Diversamente detto, per esempio, da Casini, governo di responsabilità. Sono bastati 2 anni per darci ragione. Il PDL si è rotto definitivamente, la maggioranza tira a campare, il governo non sa che pesci prendere e noi ci permettiamo di dire a Berlusconi, guardi in faccia la realtà, serve un governo di responsabilità nazionale che affronti i grandi problemi degli italiani. Il governo di responsabilità, con chi, cosa vuol dire? Bah. Bersani, governo di transizione. Io ho avanzato la proposta di un governo di transizione, non è un ribaltone, governo a tempo limitato. Sempre per fare la riforma elettorale, che non si sa bene che cos'è però, quale riforma elettorale. E però si dice governo di transizione, non guasta mai. Rosi Bindi, periodo di decantazione. Capo dello Stato verifica che in Parlamento c'è un senso di responsabilità, dico io, da parte di tutti. Prendiamoci un periodo di decantazione e vediamo di fare quello che si può fare. Periodo di decantazione, governo di responsabilità, governo di transizione. C'è anche un'altra espressione tirata fuori da un finiano, Briguglio, governo di garanzia con Pisano. Noi siamo molto affezionati al bipolarismo politico, però qui siamo dinanzi ad una emergenza istituzionale. Forse bisogna riflettere se non è il caso di dare vita ad un governo di garanzia presieduto da una personalità, Beppe Pisanu come presidente dell'antimafia potrebbe essere una di queste personalità. E veniamo alla Tullianeide di oggi. E riprendiamo proprio dal Briguglio di Futuro e Libertà, il deputato finiano. Tulliani, dice Briguglio, non influenza Fini. Mai visto, mai conosciuto. E sono certo che non ha mai esercitato nessuna influenza né di natura politica né di altro genere sul Presidente della Camera. Conosciamo molto bene Gianfranco Fini e la sua correttezza. Bocchino, grave bastonatura mediatica su Fini. È grave che si utilizzano mezzi di informazione di proprietà di Berlusconi per fare un'operazione di bastonatura mediatica quotidiana nel tentativo di, diciamo, aggiungere a quel risultato che più volte Feltri ha indicato senza mezzi termini quando ha detto Fini mettiti a cuccia, e questo ovviamente in una democrazia moderna, matura come quella italiana non è possibile. E la Tullianeide di oggi si conclude con lo stesso Bocchino che dice no al massacro mediatico di Fini alla richiesta di dimissioni. Non possiamo ovviamente assistere a quello che sta accadendo in questi giorni, cioè ad un massacro mediatico del nostro leader politico Gianfranco Fini, a una richiesta di dimissioni che è gravissima dal punto di vista costituzionale. Della Toscana e della, del Lazio. Due non sarebbero, due su tre non sarebbero in regola, un calcolo approssimativo. E fra questi che sono un po' all'attenzione, un po' tanto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, c'è quello di Vasco Rossi e quello di Massimo Boldi. Avrebbero loro utilizzato finte società di charter nautico per mascherare l'utilizzo personale. Fra le curiosità, non è tanto una curiosità, devo dire, fa riflettere un po' amaramente su chi non lavora onestamente, a Roma un postino che aveva fretta di partire per le vacanze ha gettato la corrispondenza che doveva consegnare, l'ha gettata nel cassonetto della spazzatura. È stato proposto dire che bene. Aldo, provincia di Bergamo, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Volevo intervenire sul dito medio di Bossi. Praticamente prima ho sentito il governatore Zaia che come al solito sì. Comprende e sdogana il suo leader massimo. Lo sdoganamento del dito medio. Esatto, quindi praticamente volevo notare solo questo, che siamo all'arroganza più totale di quella che è la nostra classe dirigente, addirittura. La nostra classe politica. Praticamente mi piacerebbe sapere se dovessi andare io a una conferenza stampa del Presidente del Consiglio, di qualche leader politico, e mi mettessi a fare diti medi a queste persone, che cosa verrebbe fuori? Cioè, non so se poi il governatore Zaia, una domanda che mi piacerebbe porgli è quella, se educa i suoi figli con i diti medi, in questo senso, cioè lui la sera nell'adempimento del suo dovere di padre si vede rispondere con un dito medio dal figlio, se la prenderebbe così a cuor leggero. Non so, mi sembra che la classe dirigente dovrebbe dirigerci in una direzione, ci sta dirigendo da tutt'altra parte. Guardi, non scendere solo in temi politici. Sì, mi sembra che lei è capo dell'educazione. Sì, cioè. No, per carità, Aldo, secondo me lo stesso Zaia si rende conto che fare il dito medio non è una cosa elegantissima, però insomma, credo che costruirci sopra un trattato di filosofia sia eccessivo. D'altra parte i gestacci fanno parte un po' del DNA della Lega, ma non voglio sdoganarli o non voglio giustificarli, però è così. L'ultimo dito medio di Bossi è stato rivolto, ridendo, ad una giornalista di Sky TG24, se non sbaglio, che gli chiedeva di un governo tecnico. Sentite. Di Pietro oggi ha detto facciamo un governo tecnico con Napolitano come garante. Sì. E in questo momento fa il dito medio. Come fa Napolitano garante? Mica si mette un pasticcio. Un governo tecnico non va bene, serve solo a cambiare le leggi. A cambiare le leggi che non vanno alla sinistra. E questo non va bene. Cambierebbero la legge sull'immigrazione, cambierebbero la legge elettorale. No, piuttosto che fare quelle robe si va al voto e non se ne parla più. Insomma, il dito medio, al dito medio sono seguite le grasse risate delle persone che stavano intorno a Bossi. Lo stesso Bossi rideva, e anche la giornalista di Sky mi sembra che non è che l'abbia presa troppo male. Chissà chi era rivolto poi, a chi, a Di Pietro che parlava di governo tecnico per rifare la legge elettorale, credo. Stefano da Forlì, buonasera. Oh, buonasera Cruciani. Dica. Allora, intanto un piacere parlare con lei, l'ascolto da tanto e finalmente sono riuscito a prendere la linea. Certo che ascoltando le parole del senatore Bossi sembra che, scusi se mi permette la battuta, sembra essere posseduto da un'entità quando parla, vabbè. E io volevo invece... In che senso? Mi scusi, Stefano. Cioè, no, è il tono della voce. Ho capito, no? Lei sa benissimo da che cosa deriva quel tono di voce di Bossi. Sì, sì, per carità. Però ho capito, dunque non c'è nessuna entità e nulla. Bossi è stato colpito da un malore, come lei sa, e sì, da quel momento sempre, in poi parla in quel modo. Ha sempre avuto un po' sinistro, al di là della sua collocazione politica. Comunque, detto questo, io volevo semplicemente... No, ha sempre avuto la voce un po' rauca, diciamo, la voce un po'... Comunque, insomma, lei sa benissimo... Dunque non c'è nessuna, non c'è nessuna entità che possiede Bossi, il motivo per cui la voce di Bossi a tratti, a momenti, è incomprensibile. Ovviamente, quindi non voleva essere assolutamente... No, ma è per chiarire. Insomma. Certo, io veramente avevo chiamato perché volevo un po' difendere Ennio Doris, visto che ha fatto ascoltare l'intervento che ha fatto a Cortina, e perché siccome conosco Ennio Doris professionalmente da tanti anni e quindi capisco anche perché ha parlato così di Silvio Berlusconi. E al di là delle simpatie per Silvio Berlusconi, che io non ho ad esempio, però conoscendo Ennio Doris, quando ne parla in questi termini è perché anche lui ha vissuto un'avventura, e anzi un'impresa imprenditoriale molto importante, ed è grazie alla collaborazione con Silvio Berlusconi che è riuscito a creare la sua azienda e il suo successo. Per cui diciamo, volevo dire che c'è da crederci se parla così e ne parla in termini professionali, attraverso le parole che poi avete fatto riascoltare, io ho colto anche questo. Beh, insomma, non ne parla solo in termini professionali per il lavoro da imprenditore. Doris credo che sia anche un tifoso politico del Cavaliere. Secondo me c'è modo e modo per, no, anche per esprimere l'apprezzamento nei confronti di una persona. Il dono di Dio mi sembra qualcosa francamente di eccessivo. Così, insomma, anche se io ho grande stima nei confronti di una persona, amicizia, affetto, amore, è quello che vuole, insomma, il dono di Dio, però insomma... Però l'ha detto Don Verzè, ecco. Sì, no, l'ha detto Don Verzè, certo. Infatti anche quando l'ha detto Don Verzè eravamo qui un po' a ironizzare. Siccome sono due persone, fra l'altro, diametralmente opposte, cioè il giorno e la notte... Di chi sta parlando? Doris e Don Verzè? Doris, esattamente, e Silvio Berlusconi. Questo loro... Chi sono diametralmente opposte? Doris e Berlusconi. Doris, insomma, caratteriale e comunicativo anche. Lei dice? Assolutamente sì. In che senso? Nel senso che Ennio Doris è una persona che comunque è sempre dentro le righe, è una persona poco appariscente, il Presidente del Consiglio è esattamente all'opposto, ecco, sono proprio lo yin e lo yang per quello che riguarda la comunicazione esterna. Ho capito. E allora ci tenevo perché sono anch'io legato professionalmente e affettivamente al presidente Doris, e allora ci tenevo così a spezzare una lancia. No, anche Stefano, se qui bisogno. Non c'è da spezzare nessuna lancia, perché non è che abbiamo fatto il processo a Ennio Doris per quelle frasi, no. Sia chiaro, abbiamo un po' scherzato e gigioneggiato sopra quelle frasi, che effettivamente, insomma, che si parli di legame professionale, che si parli di legame affettivo, che si parli di legame politico, ci sembrano un po' così da un po' esagerate, insomma, non so come dire. Poi, per carità, insomma, ognuno è libero di avere l'adorazione che vuole nei confronti di chiunque. Abbiamo la borsa. Torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Nel paradiso dei Caraibi. Mazza, se sta una favola qua, Lucia. Ma che cazzo devo fare di tornare in Italia? Ma la nostalgia è troppo forte. Roma mi manca. Eh? Roma mi manca. E che ti manca di più? A me mi piace di fare le passeggiate a Piazza di Spagna, a Piazza Venezia. Degli amici tuoi chi senti in Italia? Andreotti, il cardinale Angelini, il cardinale Zambri. Ma Andreotti era proprio amico tuo? Amicissimo. Andavamo a mangiare con la regina. Tu, Andreotti e la regina? Ma pure qua ti telefona? Sì, mi telefona lui e telefono io. Adesso chi è che ti piace come politico? Ma Andreotti è migliorato molto. No, Andreotti, Berlusconi. Ma tu come hai fatto a arrivare a conoscere tutti questi? Quando stai nel giro conosci tu. Lucianone, rispondi! Venito al correo de Voz Viva. Después del tono, niente da fare, ma noi siamo qui e non molliamo, caro Telese, non molliamo. Che succede? Ti sento malissimo, adesso richiamiamo. 800 24 00 24, questa è la Zanzara che rincorre da giorni Luciano Gaucci a Santo Domingo, ma L'audio del giorno è sempre il solito, Ennio Doris. Voglio farvelo riascoltare assolutamente, sempre con Alleluia. Andiamo. Io potrei rispondere con la definizione che ha dato di Berlusconi Don Verzè 15 giorni fa sopra il Duomo di Milano. E Don Verzè gli ha detto: tu sei un dono di Dio per le persone che hanno la fortuna di avere rapporti con te, per il prossimo. Tu sei un dono di Dio. Io sono assolutamente convinto di questo. Caro Luca, lo sai cosa ha detto un ascoltatore prima da Forlì, Stefano? Che in realtà, visti i trascorsi e i rapporti tra Berlusconi e Doris, queste parole sono comprensibili. Io ho detto, sì, va bene, uno può essere amico, apprezzare una persona. No, l'ho sentito, l'ho sentito. Che dici? Era diviso fra l'amore per Doris e l'antipatia per Berlusconi, quell'ascoltatore. Stefano, da Forlì era. Bene, c'è anche... interesse del cuore. Senti, ma... Dimmi. A proposito di doni di Dio... Sì. Dago Spia ci dà uno spunto interessante, e cioè quale ci fa pensare che la Ferrari Italia di Elisabetto sia stata un dono non di Dio ma di Luchino di Montezemolo. Adesso sei addirittura, perché dai, tu dici che Fini Montezemolo... vuoi Tulipan di nuovo? Tu dici che c'è un entente cordiale tra Montezemolo, allora, e Fini, dici. Una testimonianza sconvolgente di una tua ammiratrice, ascoltatrice della Zanzara, che allo stabilimento Tony di Fregene mi ha detto: io li ho visti a pranzo, Fini e Montezemolo. Ma lo sai qual è la battuta più bella del giorno? Lo sai qual è? Su questa cosa di Montezemolo, sull'uscita di oggi di Montezemolo, di Francesco Storaceo. Sai cosa ha detto? No, ha detto Montecitorio, Monte Rotondo, Monte Carlo, Montezemolo. E poi conclusione qual è? Aspetta, Montecitorio, dunque Fini, Monte Rotondo perché la duchessa con Leoni, Monte Carlo perché ormai è Monte Carlo, Montezemolo perché Montezemolo. Qual è la conclusione? Ditemela su dal vetro, non me la dicono. L'ho stampata prima, l'ho dimenticata, ma era eccezionale. La battuta è eccezionale. Niente, non me lo dicono, mica me lo dicono. Vabbè, chiamiamo Storace. Adesso fra poco chiamiamo Storace. Comunque la Ferrari 458 ha 2 anni di attesa. E allora? Quindi la mediazione di Luchino avrebbe portato la Ferrari. Hai capito? Lì da Tony tutti dicevano: chissà che si staranno dicendo Fini e Montezemolo. E in realtà chiedeva una raccomandazione per la lista d'attesa. Tu dici, Forse, è possibile. Arrivano i nostri, Montecitorio, Monte Rotondo, Monte Carlo, Montezemolo, arrivano i nostri. Fantastico, cioè la battuta del giorno è strepitosa. Ogni tanto Storace ci regala delle cose che sono fantastiche. Ha un ghostwriter, forse. Voglio chiedere a Rosy Bindi, che saluto, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Voi? Dove si trova? Dove si trova? Dove vuole Bindi? Casa mia in Toscana. Ah, in vacanza, a no? Lei Sinalunga. Quasi. Sinalunga, dice Telese. Sinalunga. Senta, ma lei direbbe di qualcuno è un dono di Dio? Una persona è un dono di Dio? Adesso, per carità, Ennio Doris, pure che, come si chiama, Don Verzè ha detto di Berlusconi è un dono di Dio. Insomma, a me sembrano cose un po' esagerate, o no? Ma tanto un dono di Dio nei confronti di alcune persone, l'ho detto, ma sono persone che mi sono molto care. Non di Berlusconi. No, vabbè, che c'è, Berlusconi? No. Ma... questo fin qua non ci sono arrivato. Ma di un uomo politico, lei lo direbbe un dono di Dio perché l'ha mandato qua per salvare l'Italia? Perché questo disse, Doris non ha detto esattamente questo, ma Don Verzè questo disse, un dono di Dio perché fa il bene. Ma guardi, mi risparmi di far, non mi faccia commentare le battute di Don Verzè su Berlusconi, perché? Già separati sono un problema, insieme capisce bene che... No, perché poi c'è anche quella sui 120 o 150 anni addirittura, bisognerebbe commentare. Vede che ho ragione io, cambiamo argomento. Telese, cosa vogliamo chiedere, onorevole Bindi? Sono 2 giorni che mi chiedete di stare in trasmissione, adesso non sapete neanche cosa chiedere. No, abbiamo. Senta, questa cosa di Montezemolo che è deluso da Berlusconi e dice che non si deve votare, come la interpreta? Come una discesa in campo o semplicemente uno che pensa al bene del paese? Ma io ovviamente ho apprezzato che l'analisi che ha fatto sulla la non azione di governo di Berlusconi. Vabbè, questo lo immagino che lei... Il Berlusconi deludente, inconcludente, la fine di una fase sostanzialmente, però non ho capito per quale motivo, visto che ha emesso un giudizio così severo nei confronti di Berlusconi, del governo, della sua maggioranza, è arrivato a usare termini molto duri anche sulla Repubblica dei dossier, eccetera, condivisibili chiaramente. Capisco che dica non andare a votare adesso non risolverebbe nulla, come sapete, come sanno gli ascoltatori, questo è condiviso, anzi anticipato dal Partito Democratico in queste, in queste settimane. Ma c'è una sorta di illogicità manifesta nelle conclusioni, perché dopodiché non può dire, visto che è stato deludente, la maggioranza non c'è più, siamo alla fine di una fase, la Repubblica dei dossier, si ricompatti la maggioranza. Si mettano d'accordo di nuovo, fine Berlusconi. Fantastica questa cosa. Lei lo sa che Montezemolo è un po' comico, lei dice Montezemolo. Io condivido tutto, escluso le conclusioni. Però Luca, lo sa benissimo Rosy Bindi, se dicesse no, tutto finito, ci sarebbe un inferno, succederebbe. No, sicuramente. Lei ha ragione, anche secondo posso me. Posso fare questo commento, visto che me l'avete chiesto? Ma secondo lei alla fine... Pensavo che si dicesse bene, allora costruiamo l'alternativa, invece si è fermato a dire che l'alternativa non c'è e giustamente il mio partito gli ha risposto, noi la stiamo costruendo. Senta, ma secondo lei... Se c'è qualcuno che ha intenzione di collaborare... Secondo lei, Montezemolo... che insomma adesso ha meno cose da fare rispetto a prima, ma vuole scendere in politica, vuole diventare il capo del terzo polo, siccome ci sono un sacco di leader di questo futuro, forse che semmai ci sarà terzo polo. Già è difficile commentare i fatti che avvengono, figuriamoci quelli che ancora non sono avvenuti. Ma secondo lei vuole scendere quindi in politica? Quando avviene, se avverrà, io lo commenterò. Adesso commento il suo intervento di oggi, che come dico... condivisibile e apprezzabile per molti aspetti, non ho capito le conclusioni e soprattutto respingo al mittente il fatto che Berlusconi ha vinto perché non c'era un'alternativa. Perché questo così ha detto, un'alternativa inesistente, ha detto, più o meno, una cosa del genere. Vi ha detto che siete inesistenti come alternativa. Insomma, questo non lo accetto. Ecco. Al fatto che si dice di Montezemolo, Telese? Guarda, non ce ne può fregare di meno, nel senso che io sono portato a pensare che sia un po' si sopravvaluti lui. Dici? Cioè, come se dovesse essere il salvatore della patria. E che deve fare? Si candidi, faccia un partito, invece fa la fondazione, c'ha gli intellettuali. Parla ogni volta sul futuro della nazione. Insomma, ogni persona che in questo tempo matura una riflessione sulla situazione, va bene, suggerisce, è in qualche modo disponibile, anche se non si capisce in che modo, a fare la propria parte in questa situazione, se naturalmente accetta di essere, in questi momenti tutti devono sentirsi utili e guai se qualcuno arriva pensando di essere indispensabile. Ma il PDL dice a Montezemolo, se vuoi prenditi i voti, scendi in campo, prenditi i voti e fai politica. Lo saprà da solo quello che deve fare. Ma io voglio chiedere a Rosy Bindi una cosa. Dì. Ma perché voi non approfittate di questo momento di disgregazione del centrodestra? Non fate subito le primarie, scegliete un candidato, chiunque sia, Montezemolo, Vendola, Bersani, lei stessa, e poi lanciate una proposta al paese. Ma la proposta al paese l'abbiamo lanciata perché stiamo lavorando appunto all'alternativa, ma noi abbiamo, io ho ripetuto questi giorni che se Berlusconi e la Lega vogliono portare il paese alle elezioni in questa situazione così drammatica, con questo bilancio così fallimentare, noi siamo pronti alla sfida. Ma non c'è una coalizione, e come abbiamo detto che siamo pronti, è cominciato una sorta di presa di distanza dalle elezioni, prima ha cominciato Di Pietro, poi è arrivato i Finiani, ieri sera Berlusconi ha sembrato ha usato toni sicuramente più concilianti, diciamo, sì, più concilianti, perché forse tutti si rendono conto che il paese non avrebbe bisogno di qualcuno che si prende cura dei suoi problemi, che sono molti e che sono in aumento. Allora, per rispondere a Telese, pronti a un confronto elettorale, perché condivido la sua analisi, cioè debole così Berlusconi non è mai stato, solo così non è mai stato, accompagnato in maniera abbastanza, come, diciamo, contraddittoria come adesso non lo è mai stato, ha un bilancio fallimentare. Appunto, allora, approfittatene. Quindi, ma il nostro senso di responsabilità ci dice che se andiamo a votare in questa situazione con questa legge elettorale avremo altri 2 anni di instabilità. In 6 anni avremo votato 3 volte. Vabbè, non è detto, magari vincete largamente sia al Senato che alla Camera. Loro avevano vinto largamente, anche la volta precedente noi avevamo vinto. Quindi è chiaro che qua questo sistema politico si deve assestare e anche... ci sono alcune riforme istituzionali che devono... Però mi scusi, onorevole Bindi, il punto è questo. Voi dite bisogna cambiare, lo dicono in tanti, no? Bisogna cambiare la legge elettorale. Sì. Dopodiché sì, poi non è che il Partito Democratico si presenta con una sua proposta, eccola qui. Perché noi l'abbiamo elaborata. Al vostro interno qualcuno vuole la proporzionale, diciamo, alla tedesca, altri... All'ultima assemblea del partito, tra le altre molte proposte che abbiamo fatto, centrale quella sul tema del lavoro... c'era anche la nostra proposta. E quale sarebbe? Non ho capito. Istituzionali. No, la riforma elettorale. Che volevi? Siamo per una legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere chi va in Parlamento, di scegliere. Dunque le preferenze? Le preferenze. E la coalizione con il quale il proprio partito deve governare. E che sia che metta in sicurezza il bipolarismo, con naturalmente la possibilità di riformare il bipolarismo attuale, non di mettere a rischio il bipolarismo attuale, abbiamo indicato sostanzialmente un sistema maggioritario che consenta... Cioè quello precedente, con recupero proporzionale, volete? No, non vogliamo il proporzionale. No, il recupero proporzionale, cioè il Mattarellum, volete sostanzialmente? Ma insomma, quella è un'ipotesi, ma non è solo quella... I sistemi elettorali che rispondono ai criteri ai quali io ho fatto adesso riferimento, però, possono essere diversi. Sì, d'accordo, però non c'è una proposta precisa. Però le riforme elettorali si fanno insieme. Sì. È chiaro che noi indichiamo criteri, ma non ci presentiamo con una legge elettorale, con una proposta dalla quale dire o prendere o lasciare, perché smentiremmo in qualche modo la nostra disponibilità a ricercare una larga convergenza in questo momento in Parlamento. Abbiamo indicato i criteri e credo che quelli siano chiari. Allora, 19:48, collegamento con Sinalunga, dove c'è Rosy Bindi. Onorevole Bindi, però il punto è questo: lei sa benissimo che la legge elettorale non è che si può cambiare, per carità, il centrodestra l'ha fatto anche a maggioranza. Però insomma, noi voi non lo volete fare, non lo volete. Andrebbero fatte con una... Benissimo. Una convergenza generale. Ho capito, però se la Lega e il PDL vogliono questa legge qua, è inutile dire, non si può cambiare questa legge elettorale. Qui, insomma, può darsi che maturi una maggioranza che invece, come dire, li costringe a miti consigli. Può sempre succedere. Può sempre succedere, sì, sempre. Ma insomma, le possibilità, in realtà lei sa benissimo, di un governo di transizione, di un governo il così. Il fatto che loro non la vogliano cambiare prova esattamente la prova che questa legge elettorale va cambiata. Ma non sarebbe sufficiente, per esempio, adesso entriamo un po' nel tecnico, non sarebbe sufficiente magari mettere un po' di le preferenze, preferenze, e poi cambiare il premio di maggioranza al Senato? No. Già stiamo entrando in dettagli per cui bisogna sedersi intorno a un tavolo. No, certo. Non mi trascinerà. No, per carità, non voglio trascinarla. Però la trascino su una cosa su cui lei non è voluta intervenire. Negli ultimi giorni una recente uscita di Berlusconi, lo introduciamo in questo modo. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Mi sento parlare la signora Rosy Bindi? Sì, dice che è gravissimo quello che lei sta dicendo. È sempre più bella che intelligente. No, la prego, Presidente, la prego. No, non mi preghi, ma io dico, mi sono stancato di essere cortese con persone che sono sempre cortesi con me. Presidente, io sono una donna che non è a sua disposizione. Non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce. Sono una donna che non è a sua disposizione e ritengo molto grave. La prego, le affermazioni che lei questa sera ha fatto. Questo era il 7 ottobre dell'anno scorso. Poi, 19 luglio, qualche settimana fa. Oggi mi hanno accusato di aver detto una battuta sulla signora Bindi, che non era una battuta volgare o sgradevole. Avevo detto che non è proprio necessario, indispensabile, per tutte le donne che vogliono entrare in politica di assomigliare alla signora Bindi. Non ho detto nel bene o nel male, quindi non credo che sia stata una battuta volgare. Preferiamo che assomiglino alla Madonnina, se questo non è blasfemo. E gli orizzonti perduti. Allora, onorevole Bindi, noi ci siamo un po' divertiti nei giorni successivi. Nel giorno di Dio la Madonnina siamo massimo della laicità. Luca, come sa, ecco. Telese, nei giorni successivi a questa cosa sulla Madonnina abbiamo sentito un po' di persone e chiedevamo: ma come mai Berlusconi si è fissato con la questione della bellezza di Rosy Bindi? E sono venute fuori un po' di frasi abbastanza bizzarre, forse scherzose. Per esempio, la senatrice, non so se sia deputata o senatrice, Colli, sentiamo. Credo che tra i due ci sia una antipatia incrollabile. Se c'è una grandissima antipatia, anche Rosy Bindi non è tenera col presidente. Poi Giovanardi, Carlo Giovanardi. Che non sia segretamente innamorato, perché questa insistenza potrebbe nascondere. Beh, se insiste così, quando poi, come dice la lingua batte dove il dente duole, quindi può darsi che siano dichiarazioni d'amore. Non saprei dare altra spiegazione di questo accanimento. C'è il vecchio detto emiliano che dice: trovate marito alle belle che le brutte ci pensano loro. Casini. No, beh, quello ha sbagliato. Ma ecco perché secondo me lui la vorrebbe sedurre politicamente, no. Politicamente. Politicamente. Lui la vuole sedurre politicamente non ci riesce. E allora la cosa gli rode. A volte chi disprezza compra. È un odio amore, guarda, lì c'è qualcosa. Lele Mora addirittura. Dove c'è odio c'è anche amore. Io devo dire una cosa, Berlusconi ama tutte le donne. Sotto sotto c'è forse amore, chi disprezza compra. C'è un vecchio proverbio che dice così. Vabbè, noi abbiamo un po' stemperato quelle frasi là in questo modo, onorevole Bindi. Siete stati... Ci siamo divertiti. Sì, ci siamo divertiti. Ma io, come lei sa, la prima volta ho dato una risposta solenne. E la seconda? Non, certamente non era. Che non sono una donna a sua disposizione. Sono una donna che non è a sua disposizione. È una risposta solenne. Dice Telese che è una delle più belle battute della politica italiana. Una delle se più esce belle. In 10 secondi è perché è profondamente dentro la mente, dentro il cuore, dentro l'esistenza di una persona. E la seconda? La seconda volta. Come dire, ho parlato di un segnale di decadenza del regime, per cui siamo anche alla ripetitività delle battute e delle volgarità. Poi, ascoltando un po' questi commenti, ho cominciato anch'io a farci una battuta sopra, perché quando la sera, puntualmente, ogni sera, in ogni festa, me lo chiedono, e io a questo punto dico: guardate, penso anch'io che ci sia sotto o è innamorato o appunto, l'amore, come dice Casini vuole una forma di seduzione che non sa benissimo che non potrà mai avermi, quindi forse ma lei dice mai avermi dal punto di vista politico, naturalmente politico, ma l'altro proprio non lo prendo nemmeno in considerazione. quello politico è come dire è altrettanto evidente, e quindi però in fondo una passione per la sua passione politica Berlusconi ce la deve avere, onorevole Bindi, perché altrimenti non si spiegherebbe il fatto che ha questo tarlo, ogni tanto gli esce questa cosa qua. Ma insomma, io penso che lui sappia chi davvero io sento di essere profondamente sono proprio un'altra cosa rispetto a quello che è Berlusconi, che rappresenta, quello che ha fatto per il paese. Cioè non è un fatto culturale, politico, profondo, insomma, no? E quindi questa cosa io penso che lui la senta. Da questo punto di vista lui, io che ho sempre detto guai a chi lo sottovaluta, penso che anche da questo punto di vista sia uno che capisce con chi ha a che fare. Luca, dove sei? Io però adesso avrei terminato il tempo anche per voi. La lasciamo a Sina Lunga, però un attimo solo, una sola cosa. Luca, che volevi chiedere? Lei ha detto che il centrosinistra è pronto, però io non ho ancora capito qual è la coalizione, chi c'è e chi non c'è. Cioè, Bersani mi sembra che abbia detto una cosa molto molto chiara questi giorni, ha detto, cioè? Insomma, ha detto innanzitutto tutte le opposizioni. E poi in tempi, cioè dipende anche che cosa accade. Vabbè, tutte le opposizioni non si può fare dall'UDC a Bendola. Vabbè, insomma, io penso che sia necessario lavorare a un'alleanza ampia, il più grande possibile, il più omogeneo possibile. Tipo l'Unione. Ma no, siamo in un tempo diverso, qui va costruita un'alternativa politica di governo, ma va costruita anche un'alternativa che io oso definire democratica e costituzionale. Ma secondo lei Casini e Bendola possono andare insieme? Ma insomma, io penso che un partito come il Partito Democratico abbia il dovere di lavorare anche a un'ipotesi del genere. Potete farla nascere all'ultimo momento. Ma perché pensate che la facciamo? Telese affretta. No, cioè, noi stia tranquillo. Telese lo sa. Stiamo lavorando. Aspetta un attimo, Luca. Stiamo lavorando. Ah, perché il ticket? A me sembra il ticket Chiamparino Vendola non la entusiasma. Prima cosa non è all'ordine del giorno adesso, perché nel momento in cui noi diciamo che c'è bisogno di assestare il sistema prima di ritornare a votare, non capisco perché dovremmo lanciare i ticket senza sapere né come né dove. Queste appartengono ad un'altra fase della vita però del Chiamparino paese, lo vede come possibile leader? Chiamparino come possibile leader del Partito Democratico? Guarda, ce lo vede lei? Io, il mio leader si chiama Pierluigi Bersani, quindi io sono una ragazza leale fino in fondo, e questo è il punto per me, questo è in questo momento, se voi mi dite chi è in questo momento il candidato a fare il premier della coalizione di centrosinistra, per me si chiama Pierluigi Bersani. Dopo so che mettere insieme una coalizione ampia richiederà anche una scelta del leader fatta insieme a tutti gli altri. Noi prevediamo addirittura lo strumento delle primarie e siamo comunque disponibili a discutere con tutti quando ci sarà il momento. Pronto? Sento delle voci di bambini, per cui la lascio. Lo sa che chi sono? Sono nipoti? Chi sono? Nipoti? Sì, io ho anche nipoti. Mica è strano. Non è strano. Senta, ma ha sentito che vogliono dare la laurea honoris causa a Bossi? Su che cosa? In comunicazione. Non lo so, in Italia succede di tutto, anche... Insomma, spero che preveda gesti e parole. Vabbè. Grazie, buonasera. Luca, dove sei? Te ne vai, adesso te ne vai, lo so, te ne vai. Ma perché Zaia ospiterebbe nel Veneto, che ne so, Boldi col suo yacht? Cioè, perché questa ferocia contro Morga e poi contro questi simpatici tossicodipendenti dello yacht? Nessuna. Ma adesso tu hai già condannato sia Boldi che Vasco Rossi, dici che sono degli evasori fiscali perché hanno intestato lo yacht. Giannino, dove sei? Giannino, ti ricordi che discutemmo con Giannino di questa cosa qua degli yacht? Giannino, chiamiamolo Giannino, lo sai, tu devi scrivere, lo so Luca, devi scrivere, altrimenti ti farei litigare con Giannino 5 minuti. Lo sai che cosa sostiene Giannino? Cosa mi ha detto oggi Oscar? È la solita storia, perché in realtà questi yacht è vero che vengono anche noleggiati, dunque non è vero che vengono utilizzati solamente per i fatti loro da Vasco Rossi e da eccetera, per cui è la solita cosa della Guardia di Finanza che vuole prendere i pesci grossi, diciamo. Questo sostiene Giannino, credo, da quello che ho sentito. Ma fanno i controlli. La Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate. Vabbè, tu li hai già condannati, innanzitutto tu li hai già condannati. No, ma Morgan l'abbiamo condannato senza neanche, io. Una dichiarazione ideologica, diciamo così. Ma no, io l'ho difeso Morgan, l'abbiamo difeso. Comunque non ho trovato un presidente regione che dica di un evasore conclamato io quello non lo voglio. No, quello è vero, di un evasore conclamato, perché sai, l'evasione è una cosa, la droga è un'altra, la droga fa notizia, l'evasione... meno. L'evasione un po' meno. La droga, quello è il drogato, non è che ti dicono quello è l'evasore, non c'è, non viene messo al pubblico ludibrio l'evasore, no, invece il drogato viene messo al pubblico ludibrio. Io credo che questa cosa del va invertita del come cosa, va invertita. Morgan è vulnerabile perché è debole. Contro Vasco Rossi nessuno si metterebbe, nessuno gli direbbe non puoi venire in Veneto, in Molise o bravo, hai ragione. Invece Morgan è vulnerabile e si può colpire a affrontare. Bravo, hai ragione. Siamo qui, 20 in punto, la 7. Nell'estate della crisi della maggioranza entra in scena l'associazione di Luca di Montezemolo. Berlusconi deludente avverte Italia Futura che boccia però l'ipotesi elezioni. Plaude il Partito Democratico, sfida all'ex presidente Fiat dal PDL scenda in politica. Scontro giornale Secolo d'Italia sugli scoop al centro della guerra tra PDL e Finiani. Abbiamo pubblicato carte a disposizione di tutti, rivendicano dal Quotidiano di Milano. Un'opaca fabbrica del fango, accusano dalla testata vicina a Fini. Quattro persone morte nell'incidente dell'elicottero precipitato subito dopo il decollo nel Messinese. Erano dirette alle Eolie. Due anni fa il pilota aveva tranciato in volo dei fili dell'alta tensione. Anche gli yacht di Vasco Rossi e di Massimo Boldi nei controlli a tappeto dell'Agenzia delle Entrate. Nelle mirino le navi lussuose intestate a fittizie società di noleggio per aggirare il fisco. Giornata di maltempo al nord con piogge e allagamenti. Esonda il Lambro, si cerca un velista di 50 anni scomparso sul Garda. Recuperata la sua barca, ancora temporali fino a venerdì. Federica Pellegrini non delude nemmeno all'esordio nella gara degli 800 stile libero. La campionessa conquista il bronzo agli europei e la dedica all'amico allenatore Alberto Castagnetti, scomparso 10 mesi fa. E andiamo a sentire anche il TG5. Forti temporali al nord, sott'acqua Lombardia e Piemonte, fiumi esondati, centinaia di chiamate di soccorso, disperso un velista sul Garda. Precipita un elicottero diretto alle Eolie dopo aver urtato un capannone. Quattro persone morte carbonizzate. Fisco a caccia dei proprietari di mega yacht, create finte aziende di noleggio nautico. Accertamenti anche su alcuni VIP. A Foggia è morto il bambino di 2 anni, azzannato dal Rottweiler del padre. Era ricoverato dal 6 agosto in condizioni disperate. Vino, parmigiano e ora anche la salsa di pomodoro. Siamo invasi da prodotti falsi spacciati per Made in Italy. Impazza il mercato nero del pesce proibito dall'Unione Europea. Zero chiamate, solo messaggini, linguaggio rivoluzionato tra i ventenni. I ragazzi ormai comunicano solo via SMS e i genitori si adeguano. Tra poco la sestina del Superenalotto. Il jackpot è il più alto del mondo, oltre 112 milioni, record di giocate. Va bene, 800 24 00 24, sentiamo anche TG1 o no? E sentiamolo. Nel messinese elicottero diretto alle Eolie si schianta dopo il decollo, 4 morti, indagini sul rispetto delle norme di volo. Dopo gli scontri, giornata di tregua fra Finiani e PDL, restano sullo sfondo le polemiche sulla casa di Monte Carlo, botte risposta a Montezemolo PDL. BCE, in Europa la ripresa economica c'è ma è discontinua, nel mirino del nostro fisco gli yacht di lusso posseduti da società di comodo. Milano, peruviano stupra una connazionale in un sottopasso, lo arrestano 2 vigilesse richiamate dalle urla della donna. Cabine telefoniche in pensione con i cellulari, nessuno le usa più e tra i più giovani c'è chi non ha mai visto un gettone. Maltempo, nubi fragili dal nord al centro ancora per 48 ore, domenica sole su tutta la penisola, nuove regole di pronto soccorso per i cani abbandonati e tra poco i numeri del super... Venido al correo de voz viva. Después del tono, su llamada será facturada. Sono 2 anni che stai qua, in mezzo ai Caraibi, insomma stai bene, tutto quanto, però un po' casa ti manca, no? Ma non ti conveniva fare un pochetta di galera? No, no, neanche un'ora di galera. Perché cioè, poi dopo un po' uscivi e te ne stavi a casetta. Se io andavo in galera prendevo le colpe. C'è gente che va in galera, non c'entra niente, no, non c'è no, colpa. No, no, io non sono così. Magari te facevi qualche settimana, no. Poi tra indulto e tutto non quanto. Non mi interessa, non mi interessa, quanto, neanche no? Un giorno, neanche un'ora. Settimana neanche di galera. Neanche un'ora, neanche un'ora. Giannone pensa un ritorno nel calcio. Se capiterà l'occasione lo farò. Ora che la latitanza. Tutte le vicende giudiziarie come si sono risolte? Sono chiuse. È un ricordo lontano. Hai fatto il patteggiamento? Patteggiamento. La giustizia italiana. C'è stato l'indulto? È tutto giusto. Cioè... E è chiuso, basta. Ha fatto il suo corso. Che accusa era rimasta in piedi? Ma non c'erano le solite cose. Comunque, tipo quando, che, quando tu patteggi... Vabbè, comunque hai patteggiato. Patteggiato. Ha patteggiato, quindi a posto. Per Lucianone l'Italia... In Italia la correttezza è quasi perfetta. È un paese di persone oneste. L'Italia è fra le più corrette del mondo. Sicuro, Lucia? Sicuro, al 100%. Lucianone, rispondi a questo maledetto telefono. Cosimo, provincia di Brindisi, buonasera. Cosimo, non sentiamo. Giuseppe, provincia di Chieti, andiamo in Abruzzo. Ah, buonasera, dottor buonasera, Cusiani. Buonasera, Giuseppe. Un dico. Saluto a lei e al suo compare. Il mio compare è telese. E il mio amico telese che adesso si è rifugiato a scrivere. Dica. E stasera me lo sono dovuto sugare perché io di solito quando mi accorgo che c'è telese cambio subito, vado a forbice all'altra trasmissione. Addirittura. Non me ne accorgo. Sì, sì. Sì, sì. Giuseppe, no, ma è un po' esagerato. Addirittura forbice. Sì, sì, forbice. No, io dico, ma lui che è opinionista, economista, politico, sportivo e giudice, vedo che lui con la sua sinistra superiorità è uno che è superiore a tutti. Giuseppe, è uno semplicemente che esprime le sue opinioni, non faccia troppe... Vabbè, comunque, di che vuole parlare lei, a parte Telese? Di fini. Tanto di cui sempre là si va a parare. Questa è la telenovela dell'estate, no? E questi qua di fini chiedono la tregua, ma non serve a niente, secondo me. Loro vogliono tempo per logorare il governo. Berlusconi. No, veramente la tregua pare che non l'abbiano chiesta loro, comunque insomma venga da tutte e due le parti. Comunque, in ogni caso, lei dice i finiani vogliono prendere tempo per logorare sempre di più Berlusconi. Sì, sì, sì. Questo è il loro obiettivo. Questo è l'obiettivo. Va bene, Giuseppe, grazie. Alessandro da Cuneo. Alessandro da Cuneo, buonasera, andiamo in Piemonte. Buonasera, signor Cruciani. Buonasera, Alessandro, mi dica qualcosa di interessante. Ma io volevo parlare di nuovo ancora del caso Morgan. Sì. Facendo un parallelo con la Lega. Nel senso che le frasi di Morgan, io premetto, sono un elettore di destra e trovo le frasi di Morgan gravissime. Perché sdoganare la droga in questo... frangenti simili grandi. Ho capito Alessandro, ma è una roba vecchia, basta, insomma ci sono state altre frasi successive, rettifiche, controrettifiche, espulsioni, altre interviste, insomma, il tempo passa, non è che uno può essere impiccato a una frase detta ad un giornale, peraltro contestata, sarà pure grave, sicuramente grave. È vero, però se io Alessandro da Cuneo faccio una formazione sulla droga è un peso. Se io, personaggio dello spettacolo, con un seguito di giovani, faccio una frase sulla droga, ha tutto un altro peso. Però, tolto questo, io mi chiedo, anche da lettore di destra, ma da che pulpito viene la predica? Perché io proprio ieri sera sentivo dalla Zanzara, sentivo Tosi, che diceva che non aveva mai sentito che la frase di Morgan era una delle più gravi che avesse sentito ultimamente. Beh, insomma, questo mi sembra esagerato. Io non ricordo quelle di Bossi, veramente gravi. Quando parla di fucili pronti, sono due cose diverse, però Alessandro, sono due cose diverse. Lei dice non è educativo nemmeno quello. Non è educativo. Siccome Tosi l'ha messa sul piano dell'educazione, educativo per i giovani. Esatto. E lei trova educativo per i giovani, per esempio, educativa per i giovani una canzone di questo tipo, di un personaggio che invece viene, a parte le questioni col fisco aperte oggi, ma insomma viene certamente idolatrato. La Coca-Cola che ti fa bere. E non si riferiva alla Coca-Cola, no? Caro Alessandro, eppure nessuno vuole cacciare Vasco Rossi dal Veneto. Ma infatti questa è l'ipocrisia all'italiana. Secondi, torniamo subito. Siamo qui, Claudio da Padova, buonasera. Buonasera Cruciani. Io volevo chiederle a lei e anche a Luca Telese, sì? Cosa pensate se Montezemolo, come chiede la PDL, se entra in politica potrebbe essere un pericolo per Berlusconi o no? Claudio, mi sembra una domanda... Sì, in questo momento non, senza senso, ormai diciamo pericolo per Berlusconi, sa, Berlusconi è da 15 anni in politica, in che senso pericolo per Berlusconi? Mi scusi, poi Montezemolo scende in politica con chi, con che cosa, con il suo movimento, alleato a chi? Bisogna vedere. Sì, col centro, nuovo centro che vogliono fare, penso. Ma io credo, guardi, Claudio, credo che se mai dovesse succedere una cosa di questo tipo e succederà nel momento in cui Berlusconi non è più in politica. Non credo che Montezemolo affronterà una competizione elettorale con Berlusconi in politica. No. Questa è la mia previsione. Ho capito. La ringrazio. Fabrizio da Livorno, buonasera. Buonasera a lei. Dica. La riflessione è estremamente semplice. No, a me sembra che non ci sono grossi problemi per nessuno per andare alle elezioni, soprattutto perché è un bagno, no? Sano, una democrazia. E io credo che bene ha fatto Fini a prendere distanze e staccarsi da questo calderone, perlomeno credo che abbia fatto un po' di chiarezza. Guardi, io sono ho 60 anni, 40 anni che voto, l'ultima volta non ho votato, non ho mai votato a destra. Ma le assicuro che insomma le simpatie per Fini e la chiarezza con cui ha, no, come dire, ha impostato il rapporto politico all'interno del Popolo della Libertà credo che sia un punto di riferimento interessante. Non lo è solo per me, perché lei dovrebbe girare un po' per la Toscana, ma non solo per la Toscana, perché ho lavorato per 20 anni a Roma, ho molti amici e credo che tutto sommato quel 37-38% di assenteismo che non viene mai considerato potrebbe essere potrebbe essere una cosa interessante. No, non ho capito l'assenteismo, scusi, che c'entra Fabrizio? Voglio dire che quella percentuale così elevata che non di di gente che non va a votare, sì, che non è andato a votare come ha fatto sottoscritto le ultime elezioni, sì, perché dopo 40 anni che votavo, cioè lei pensa che Fini potrebbe portare di nuovo a votare quella percentuale? Io di persone sono convinto esistente. Sono convinto di sì, ma sono convinto anche che i vecchi colonnelli non hanno più il seguito. Basta girare un po' nelle province, è un'attività che faccio io, sono un imprenditore, ho rapporti all'interno del mondo industriale e voglio dire, i punti di riferimento territoriali si stanno cambiando, insomma, ecco. Ha portato un po' di novità questo atteggiamento di Fini, io la vedo così, e quindi andare alle elezioni non vedo che è un dramma per... Ho capito, lei è un po' contraddittorio, perché apprezza Fini e nello stesso tempo vuole andare a votare, cosa che Fini non vuole. Ma abbiamo il traffico, torniamo subito. Siamo qui, Marisa da Roma, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, è un piacere per me parlare con lei. Grazie, dica pure, abbassi la radio o spenga, forse sentiamo un ritorno. No, perché la tenevo accesa, perché la sento molto lontana, non riuscivo a sentire. Dunque, intanto vorrei iniziare questa telefonata parlando di Telese. Perché che ha fatto Telese adesso? No, non mi sembra giusto quello che dicono alcuni suoi ascoltatori, perché Telese, io sono di destra, però Telese è un ottimo giornalista, è una persona egregia, quindi non capisco perché venga attaccato. Tra l'altro è stata un'idea bellissima questo tandem Cruciani-Telese. Grazie. Ecco, questo lo volevo dire perché Non è giusto verso Telese, no? Bisogna essere obiettivi, se uno è un professionista che vale bisogna dirlo e riconoscerlo, non perché si è dall'altra parte denigrarlo. Poi volevo evidenziare l'estrema arroganza di ascoltatori di sinistra che quando espongono le loro idee e vedono che lei non è d'accordo lo attaccano in modo veramente deplorevole. Anzi, vuole un mio pensiero? Lei ci perde troppo tempo con loro, veramente, perché quando lei vede che sono piuttosto aspri, lei cerca di riportarli a sé e questo sinceramente non mi piace. Va bene, Marisa, comunque insomma ci sappiamo difendere, io per carità la ringrazio, insomma ci difendiamo bene. Dove andiamo? Grazie Marisa. Enzo Russo, buonasera. Buonasera. Come stai? Non c'è male a sedere su uno stupendo paesaggio che è Capalbio. Ah, ti trovi a Capalbio? Dove esattamente? Sto su via 24 Maggio, è la stradina che è la cinta muraria di Capalbio. Oh, quanto tempo. Allora Enzo Russo forse è l'unico al di fuori della famiglia Tulliani che negli ultimi giorni ha avuto un contatto diretto con Gianfranco Fini. Russo, non capita a tutti in questi giorni, eh? Sì. Russo fa il fotografo, no? Sì, sono reporter. Reporter, soprattutto il fotografo. No, esatto, giornalista fotografo. Giornalista fotografo, esatto. Freelance. No, c'ho un contratto con il gruppo Espresso, col Tirreno, sì, di Livorno. Poi ma lavori soprattutto in zona, diciamo, in Toscana? Esatto, io ho tutta la zona sud della Maremma. Tutta la zona sud della Maremma. E ti sei piazzato da quanti giorni lì ad Anzedonia? Ma sai, io ci faccio un passaggio, vado via, ho molti amici, per cui l'arrivo di qualcuno non passa inosservato. Eh no, certo, poi si sapeva che Gianfranco Fini sarebbe andato lì ad Anzedonia, dunque ti sei piazzato ieri dove? Ieri mattina era giusto soffiata, sono arrivato giusto in tempo, eh. Ho fatto le varie foto. Ieri? Ieri mattina? Ieri mattina. Hai visto arrivare, sei arrivato prima tu o Fini? È arrivato prima Fini di 10 minuti, eh. Io ho il tempo di parcheggiare la macchina a un altro stabilimento, sì, e di fare circa 300 metri sulla sabbia, sì. 300 metri sulla sabbia diventano circa 600. Sì, certo. E dove ti sei piazzato? Ma a 100 metri da lui, nemmeno, un ottimo 800 mm. Ma eri diciamo in una zona scoperta oppure ti sei messo sotto gli ombrelloni? No, scoperto, perché non c'era nessun ombrellone, il primo ombrellone dietro di me stava perlomeno a 100 metri. Ma hai usato qualche accorgimento oppure non te ne fregava niente, stavi lì? Non me ne è fregato nulla, ho messo un telo a terra, sì, ho messo il telo obiettivo e ho iniziato a sparare, perché prima c'era solo lui a sedere sulla sedia da regista. Sì. Poi si è alzato e è andato a metà fila degli ombrelloni della prima fila e ha preso la bambina. Sì. È iniziato a fare i castelli di sabbia con le formine, con tutto. Un Gianfranco Fini padre. È bello, belle foto. Sì. Cioè, belle foto insomma, che valgono sicuramente. Sì. Se, foto che l'agenzia sta cercando di piazzare, se te lo posso dire, non ho problemi. No, dimmelo, come no? È l'infofoto di Milano. Sì, sì. Senti una cosa, allora, quanti scatti hai fatto? Ma io con onestà ho fatto un 450 scatti. Addirittura, perché poi a un certo punto è arrivata Elisabetta Tulliani, no? No, non è lei, è una signora che gli rassomiglia notevolmente, ecco. Sì. Con il cappello calato sugli occhi, con gli occhiali, da sole, da lontano, e anche alcuni colleghi giornalisti erano convinti fino a stamani che fosse lei. E invece non era lei? Non è lei, è una signora che sta allo stabilimento e che si è divertita moltissimo per la notorietà arrivata su quelle poche. Eh sì, la vicina d'ombrellone di Fini che è stata scambiata per la Tulliani. Che naturalmente... Esatto, ma anche se uno nota una foto che io oggi guardavo con una certa attenzione, sì, nessuno la riconosce, perché lei sta sorridendo con Gianfranco Fini. No, è vero. Per cui questa foto lascia in inganno, tant'è vero che ho ingrandito al massimo, poi ho preso una foto della Giuliani lo ha costata vicino. Hai capito subito? C'è lo spazio, c'è solo la differenza dei capelli. Ah. Capelli più lunghi la Elisabetta Giuliani, mentre l'altra c'è i capelli a caschetto più corti. Senti Enzo, ma a un certo punto Fini si è accorto della tua presenza, no? Ma Fini se n'era accorto da molto tempo della mia presenza. Sì. Perché diciamo che è un ottimo sguardo e un ottimo osservatore di cosa gira intorno a lui. Sì. Perché già 12 giorni fa lui è arrivato a Orbetello, sì, è entrato nell'interno di un negozio, all'uscita dal negozio che stava telefonando, mi ha scorto. Ah. Come appena mi ha visto, tranquillo, gli ho fatto le foto, quando mi è arrivato vicino mi ha fatto segni, basta. Non è che mi segui tutto il corso di Orbetello e mi fai foto. Così ha detto. Così ha detto. La battuta, ah, ma senza dirlo è da capire. E tu non sei andato poi, no? No, poi io sono andato in macchina, ho preso un libro fatto a dicembre con una prefazione di Maurizio Costanza e c'è una foto, ci sono alcune foto di lui mentre fa l'immersione che mettono il Cristo subacqueo, sì, il Cristo degli abissi a Giglio. Sì, no, che c'entra col corso? È perché ho preso questi due libri e lui è ritornato sul corso, sì, e gliele ho dati, per cui ci abbiamo fatto lo scambio di battute. Ah, ho capito. Senti, ma invece penso, sulla spiaggia, che è successo l'altro giorno? Lui era un po' arrabbiato, certo, o no? A un certo punto è andato a prendere il berrettino per la bimba. Quando è ritornato ci ha messo il berrettino a posto sulla testa della bimba, mi ha fatto segno col dito, con l'indice, vieni un po' qua. Ah. Sembrava un po' alterato, dammi la scheda. Addirittura. Presidente, ci sto pure le foto mie dentro, sai, sono privato, mi dia la scheda, ho preso la scheda, io prego Presidente. E come, gli hai dato la scheda? Sì, vabbè, ma ce n'avevi già un altro. Come, ce l'avevi già? Ce l'avevi già? No, una gliel'ha data, io gli davo tutte e due. Quella finta gli hai dato? No, gli ho dato una piena, ma l'altra era piena dentro tasca mia. Ah, ho capito. Sono arrivati gli uomini della scorta, mi hanno preso i dati, hanno accertati che era un tipo pulito, che non ho precedenti, non ci so carichi sospesi. E allora? Tranquilla. E mentre hanno finito, che poi stavo ridendo io con uno dei due della scorta. Della scorta? È arrivato il presidente, mi ha guardato cupo, no? T'ha guardato? T'ha guardato? Un po' cupo, ancora un po' ti faccio mettere paura, no? Ah, un po' con la faccia un po' feroce. Ha buttato la scheda, no? Ha lanciato la scheda amichevolmente. Non T'ha lanciato la scheda addosso così, no? Mi ha lanciato sta scheda a mezzo metro, no? Becca. Becca questa scheda. La scheda e di là mi ha detto fatta ripaga bene. E subito dopo fatto il buon Ferragosto e qua c'è il punto che io ho dato l'interpretazione mia, probabilmente non ci sarà fino al 16-17 agosto. E vabbè, questa è la tua interpretazione. Comunque Russo, uno dei pochi ad avere incrociato lo sguardo di Gianfranco Fini, a parte naturalmente la famiglia Tulliani e le persone lì intorno in spiaggia. Grazie Russo, buon lavoro. Prego, grazie a te. Ciao, 20 25 22 800 24 00 24. Oreste da Chieti, siamo quasi in conclusione. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Intanto le volevo dire, volevo riagganciarmi al discorso per quanto riguarda Montezemolo e il Movimento Italia Futura. Intanto sappiamo tutti che è già da un po' che Montezemolo dice di voler rientrare in politica, o se non lo dice comunque lo dimostra in qualche modo. Sì. Ma lei non crede che il cambio Berlusconi, eventualmente ci dovesse essere il cambio Berlusconi-Montezemolo, sia solo un passaggio di consegne, dato che il potere passa da un imprenditore a un altro imprenditore e che non ci serva un cambiamento? Non lo so Oreste, non mi sembra un paragone che si possa fare quello tra Montezemolo e Berlusconi. La ringrazio. Lorenzo da Milano, buonasera. Veloce, buonasera. Lorenzo, veloce. Buonasera. Sento, ho sentito prima il ministro Zaia, cioè scandaloso, vabbè. Addirittura, che ha detto di così scandaloso? È peggio dei socialisti negli anni Ottanta. È diventato, era un bravo ministro secondo me dell'agricoltura. Appena ha avuto la possibilità di saltare dall'altra parte, ha dimenticato l'agricoltura, perché secondo me se uno fa il ministro dell'agricoltura lo fa bene, non riesco a capire perché deve diventare governatore del Veneto. Sì, per interesse suo lo può fare, però non lo so, non mi è piaciuta. È diventato un attimino... Ma cos'è che non è piaciuto? Il moralismo? Caspita, che cosa? Di Morgan, cioè io Morgan non lo posso vedere, però quello che hanno fatto, quello che dice, cioè senza senso, senza una logica, senza veramente da politico. Vabbè, ho capito. Telefonavo solo per un'altra cosa. Mi dica. Io quest'anno ho pagato il bollo auto a dicembre, che mi scadeva il bollo auto. Ho cambiato auto a luglio, ho ripagato ancora 380 euro di bollo auto. Lorenzo, cosa posso farle io? No, lei non può fare mica niente. Posso fare ricorso? Quella faccia, posso dirlo, è un anno che voglio dirlo, quella faccia da pirla del nostro Presidente del Consiglio all'ultimo giorno di campagna elettorale. Aveva detto che avrebbe abolito il bollo auto, sì. Ha detto che avrebbe abolito il bollo auto. Insomma, in futuro, progressivamente, insomma, gradualmente. Anche il cancro entro 3 anni, progressivamente. Grazie Lorenzo. Gianfranco, provincia di Belluno, buonasera. Ciao, buonasera. Veloce, 20 secondi. 20 secondi, niente, 20 secondi voglio dire che pur non essendo un elettore di Berlusconi, sì, vorrei che il governo andasse avanti e che questi galli nel pollaio non facciano la fine di quelli di Don Abbondio, dei Promessi Sposi, e si metta a governare come si deve governare. Cioè lei è contrario dunque al fatto che ci siano le elezioni anticipate? Sia come persone che sono capaci di intendere e volere, sia come compagni di famiglia e sia come politica, perché io a suo tempo avevo fatto il consigliere comunale. Va bene, Gianfranco, ho capito. Contrario alle elezioni anticipate, la legislatura deve proseguire, si devono mettere d'accordo. Per questa sera abbiamo chiuso, ci sentiamo domani sempre alle 18. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non vi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.